no? Qualche bel cc. Siamo in diretta, no? Classica frase che dico all'inizio. Perché funziona così di diretta? Allora, cioè, potrebbe anche essere utile, per carità. Però non volevo fare il micromando. Puoi anche spegnere di là, tanto oggi solo non c'è. Sì, però volevo spararci almeno la... Interessante. Come va il lavoro? I due colloqui che avevi? Uno non è andato, l'altro sto aspettando la risposta. Vabbè, benvenuti intanto in diretta, credo, col dodicesimo episodio di Colloqui. Quindi se il mio capo mi vede adesso... Non ha chiamato nessuno. A me, ancora. Ma potrei prendere Clairvoyance. Ma sarebbe utile per il gruppo. Come noterete, i nostri giocatori molto stanno facendo varie cose, tra cui salire di livello dal quinto l'unico al motivo sesto. Per cui si gioca, volevo dire. Ah, non ho cambiato il carta il non numero sarà del il livello. Master di questa sessione, anche se si è messo piccato, però questo bello. Allora, ho trovato un'altra cosa che cambia, tipo il numero del livello. Giustamente. Potrei fare anche creare cibo e acqua, anche questo potrebbe essere utile dove andiamo. Effettivamente. Però queste cose sono troppo allora, buone. Esatto. Intanto tu per saperli li sai, li devi solo preparare quelli che vuoi lanciare. Eh no, scusa, allora se deve cucinare, tanto vale che cucina. Ho capito, ma volevo guardarmi. Allora, eccoci. Allora, no, ok, io no, non li conosco tutti, però. Non vedete, li conosci tutti, ma ne prepari solo alcuni. Comunque segnatevi che tutte le volte che fate un tiro salvezza e siete a 10 piedi da me, prendete un bonus pari al mio carisma. Ok. E io ho 10 in carisma. Allora, prima di entrare nell'aspetto tecnico, diamo il benvenuto al 12° episodio di Colloqui. Giocheremo alla quinta edizione di Dungeons & Dragons, come tutte le volte. Giocheremo in queste posizioni. Queste esatte. Questo episodio sarei voluto chiamare anche i malati, perché come noterete dalla mia voce... Il lazzaretto. Il luzzaretto. Allora mi rubate le battute, io cosa sono qua a fare? Poi là sputtiamolo fuori però non si chiama così, purtroppo, però ci stava, sarebbe stato bellissimo, lo so. E giocheremo, come dicevo, la quinta edizione di Dungeons & Dragons senza ulteriore dojo. Mandiamo la sigla. Io però non so se c'è l'audio, perché boh, la diretta non lo so, facciamo un check. Cerchiamo. Senti se c'è l'audio. Allora, peccato se non si è sentita sta battuta del catta. E soprattutto perché devo smadonnare per capire perché non va. La rifaremo pari. No, però quelli del podcast sicuramente l'ha sentita. C'è l'audio. C'è l'audio, bene, perfetto. Si sente la mia voce nasale, ultra nasale, più nasale del solito. Va bene. Buon vediamo nasale. Esatto. Vediamo se anche la se anche la sigla ha l'umore nasale. No, però è bassa. Non è che salta il telecomando da un appena altro. No, però magari me lo piglia. Ora Giulio che è troppo grosso e non riusciva a passare. Hai una scoperta di un cavallo adesso. Ma tu hai come ballerino una cavallo per pure un cavallo di ballerino? Non sei posto a parlare? Pensavo un narval. Dai, prenderò Mass Healing Word, che è utile per il gruppo. Dove che prendo? Parola di guarigione, grazie. Vi curo... No, dai, fa schifo. Cioè, alla fine curo un D4 più il mio bonus. Sarà a tutti. Solo per stabilizzare uno che ha zero. Sì, infatti. Però... Dopo una palla di fuoco, mi fanno rinviare. che basta. Tu abbia un PS. Ma tanto non lo so usare le magie, non li uso mai. Allora, i nostri giocatori stanno salendo di livello. Per salire di livello si tira il dado. Yes. Che dado? Per punti ferita. Cosa ha fatto? 5. Non l'ho visto, quindi te l'ho detto. Cazzo vuol dire? Lo devo vedere. Fa schifo. Lo devo vedere. Cazzo l'ho già fatto, 13, te l'ho detto. Col dado d'8. Esatto. Ho fatto 8. Allora prendo 8, così impari. Ah no, doveva bene, però non prendo revivify. Giulio? Aspetta un secondo, fai prima una carta. Catta. Non mi ricordo neanche che dado ho preso il 10. Vale, tira di 4, se non lo sai. Grazie. Non ho neanche preso il Davide, il mio borsello. 10. Massimale. Vediamo se anche Giulio fa massimale. Così posso iniziare a resuscitare la gente che muore. Di rossi. Era l'altro. Non massimale di Giulio, uno. Però va bene, prende il medio. Culo, poi nel secondo ho fatto 7. Quindi 5 più... Esatto. Molto bene, molto bene. Ora, tu Lasa hai fatto tutto? Sì. Perfetto, farai tu il riassunto. Non mi ricordo cosa è successo l'altra volta. Se ti metto il microfono un pochino più qua. Non ho fatto tutto, devo fare un'altra cosa. Posso farlo io? La battuta? Ah, sì, lo fa Giulio, vedi. Stavolta sono preparato. Bravo. Non vale questa cosa, è come all'elementare. Vai! Tu hai fatto tutto bene. Faccio il riassunto dell'ultima sessione. Ho fatto tutto. No, lo fa l'altro. No, l'ha mai fatto. I volontari, sì che l'ho fatto sì, una volta. Ma la maestra alla fine... Lo fai anche adesso. Ha detto che spiegava. Si accetta i volontari. Lo fai anche adesso. Entri nell'immagine e fai il riassunto. Allora voglio fare un altro mezzo livello. Effettivamente il mio riassunto potrebbe essere parzialmente... Diciamo. Allora, la cosa importante è che Vest mi ha fatto trovare dei guanti interessanti ma bucati. E si rifiuta di ammetterlo. Sono solo bucati. Per... Sì, hai detto che parola pensa così. È vero, però è... Sì, è bucato, ma poi si è ricostruito. Allora, siamo sbarcati da... Siamo arrivati con le scialuppe nell'isola degli Albatros. Cioè, siamo arrivati a nuoto, in realtà. La legna. Io sono arrivato con la scialuppa. È il mio punto di vista, quindi. Mi passi il cellulare che è lì. E mentre stavamo cercando della legna, c'è stato Catta che è stato attirato da dei totem di legno. E Sal è stato impaurito. Come si chiamava? Philip è stato impaurito da un albatros. Quanti punti di ferita hai adesso? 64. Questo albatros gigante si è appoggiato sul totem centrale di questa di questo circolo di totem, di altri 8 totem, e avvicinandosi Kat mi ha portato a cadere in una trappola. E trappola che ha fatto che attraverso il suo innesco ha fatto arrivare altra gente. E lo devo fare cantata? No. E ha fatto arrivare altra gente che è stata che ha dato finalmente l'opportunità, partendo da lontano, a Giulio di usufruire dei suoi incantesimi ad aria senza fare del male ai suoi amici. Quindi non so quanto sia stato il suo gradimento la cosa, però l'ha potuto fare. E questo rantolo lamentoso credo che sia stato poco. Non vi odio, non è vero. Alla fine dello scontro siamo riusciti a recuperare dei bottini ancora da valutare e a recuperare delle legna da questi totem. Ok. E in questo momento non mi ricordo se eravamo tutti uniti perché Philip era scappato in preda al panico. Tu hai recuperato vari oggetti. Sì. Ma quanti li hai condivisi con i tuoi amici? Nessuno. Le pietre. Poi io avevo mandato Quake su a portarmi i corpi dei tizi morti. Sì, Giulia ha fatto una cosa super creepy che ci ha messo tipo mezz'ora per uccidere tutti i cadaveri. Però le ha riportato anche l'asta, però. Non gli avevi lanciato il giavellotto su. Sì. Oh, una cascata di sangue ricopre la scogliera dell'isola. Va bene. Come siamo cazzo, messi? Effettivamente adesso potrei resuscitare uno dei... Temo sia passato il tempo massimo. Un'ora. Anche quelli che hanno i pezzi che hai raccolto? Cioè, sì. Le varie dita? No, quelli no, quello... quello no. Vuoi resuscitare qualcuno? No. Ok. Posso, ma non voglio. Anzi, lo resuscito e lo riuccido. Sì, sì, potevo farlo. E... dimmi. Quante volte lo puoi fare di fila sulla stessa persona? Non c'è un limite. Punto esperienza. Quello degli incantesimi. Ho un incantesimo di terzo livello che mi è rimasto. Ah, allora c'è un limite. Okay. Ho capito, mi è incantesimo. Va bene. Allora, siamo saliti tutti di livello, siamo a posto? Sì. Credo di sì. Molto bene. Io sono a 6 e mezzo. Cioè, hai preso 6 e mezzo del riassunto, va bene. E ok, recuperate la legna di dovere. Vengono rifatte. Un'ottima legna, detto che era quella dei totem. Era un'ottima legna, sì. Vi viene fatto gli applausi per la legna. Per fibra. Esatto. C'è ovviamente sulla nave che è un po' più... Ed è il cazzo di Albatros che fine l'ha fatto. Era andato via. Dopo che abbiamo recuperato una ti serve gemma. Cosa? No, era no, no, sì, che tu sei andato sotto e prendo la gemma e detto... Gliel'ho fatta vedere e lui è andato Master via. Of the Universe. Esatto. Quindi abbiamo questa gemma del Re dei Venti che ci porteremo dietro per... Buono. Ci porteremo dietro per buon augurio nella navigazione. La pietra che hai tenuto tu. Mm-hmm. Hai condiviso con gli altri il fatto di aver... Sì, direi di sì. Dov'è quella? Lì sotto. Una verde? In realtà... non l'avevi detto, per cui se vuoi puoi dirlo adesso. No, gli mostro il cimelio e dico: questa è la pietra di il dio Agnaruk. Agnaruk, esatto. Tenne, perché eravamo infatti in un tempio di Agnaruk, quello che ti sei ricordato alla fine. Sì, è vero. E il dio dei venti è il fratello del dio di Katta. Vabbè, ma non si vedono tanto. Scrivono giusto e quindi ci porterà fortuna nella navigazione assicurandoci sempre il vento in poppa. Il fatto di aver distrutto il suo tempio invece non ha alcun impatto probabilmente questa tua... Beh, non l'ho distrutto io. Non l'ho distrutto io, però hai partecipato. Il video lascia vivere e poi Agnaruk valorizza di più l'ardore che sulla nave c'è chi è più scaramantico e nota comunque il fatto che coloro, mica quelli delle... no, quello sì, ma c'è chi nota che comunque la legna che avete portato recava delle incisioni. Non l'avrete mica presa dal tempio di Agno? No. Ed è molto molto impaurita, no. Eccetera. Il capitano della nave però che tra non avevo neanche detto come si chiamava, e facciamo che si chiama Taius. Ma... Taius. Scritto fantasia. Taius. I lunga o i normale? Facciamo i normali. Taius. E in realtà non gliene frega molto. Dice: sì, sì, beh, gli albatros sicuramente un animale sacro, ma questa è legna, non sono animali, quindi chi se ne frega. Avete preso anche della carne? Lui sì. No, non ho preso la carne, non ho lasciato. Vengono fatte le riparazioni nel caso e nel momento in cui torna poi l'alta marea, la nave può riprendere il suo viaggio. Vi ricordate dove stavate andando? Lontana nell'orso. Come cazzo si chiama? C'è una tappa intermedia prima di No. Forse si chiama Kafkern. Sì, ottimo. Che abbiamo anche dobbiamo portare anche qualcosa là. C'è il pacco di Jab. Il pacco? Cosa? Non te lo ricordi neanche le missioni secondarie che ci dai? No, quello me lo ricordo. Come si chiamava però? Zab. Cioè, cosa ti aveva detto esattamente? Adesso chiedi troppo. Ha detto devi portare là questo pacco senza farlo vedere, ma non mi aveva detto altro. Mi e Jab cosa c'entra? Chi è il pacco che mi ha dato lui. Ma Jab chi te l'ha detto? Ma hai detto tu. Ti hai detto come Jab. Nome Jab? Sì, me l'ho scritto, c'è un motivo. Boh, mi sembra strano. Va bene, comunque si devi consegnare un pacco che aveva sopra un simbolo. Che non ti avevo detto all'epoca. Il simbolo... È simbolico, immagino. È... Vabbè. Adesso... Non è che sia così rilevante l'altra informazione, però volevo farti vedere solo il simbolo in sé. E questo qua... Una clessidra tipo? È una clessidra delle poppe. E delle poppe. Cos'è? Come delle poppe, scusami. Questo vale come stesso. Sei un po' malato però, canna. Come delle poppe? Da dove? Dove cazzo le vedi? Poi queste... Effettivamente c'è una clessidra. C'è una clessidra e c'è le poppe con un cappello. Vabbè. Effettivamente c'è una clessidra, bravo Laz. Sono eleganti. C'è un'altra cosa all'interno. Cioè, la sabbia. No, sì, il simbolo no, dell'infinito. Esatto, il simbolo dell'infinito potrebbero anche essere degli delle poppe. Oppure dei. Visto che non c'è il capezzolo centrale. Occhi. Esatto. Quindi potrebbe essere. E quelle sono le sopracciglia. Esatto, quindi potrebbe essere gli occhi di Zab. No. Non lo so, gli occhi di... Dai, non l'hai fatto malissimo, dai. Considerando la mia capacità di disegnatore infima. Nell'Arbatros. Vabbè, dai, che cos'è che ha gli occhi grandi e dei super sopracciglioni? Un gufo. Bravo Giulio. Non ho neanche visto il disegno, ragazzi. No, non è vero, l'ho visto. Va bene, sì, ci sono gli occhi di un gufo e la clessidra in questo simbolo, fondamentalmente. Cazzo, è chiaro che è un gufo, ragazzi. Ovviamente un po' stilizzato. Se ti facevo solo gli occhi, ci potevi arrivare, dai, per quanto io sia un pessimo. Ma sì, scusa, togli il triangolo sopra, è un gufo. Col cappello. No, no. No, a favore di telecamera. State. No, aspetta. Secondo voi cos'è? Una clessidra con le poppe. Quello è il simbolo, una clessidra con le poppe. Anzi no, delle poppe con un cappello. Va bene. Come rovinare una campagna. Comunque sì, questo è il simbolo del materiale. E... Va bene, il pacco di Jab. Non ti sono state date istruzioni però per come consegnarlo. Tu non l'hai aperto. Per ora no. Non l'hai aperto. Ma è una cosa tua. Lui è parte del pagamento. È di un quello oggetto, che ci ha dato il tipo che ha valutato anche lo scrigno di Sheo. Ah già, ok. Ora ho connesso. Riprendete quindi vela verso Kafkard, appunto. Il marinaio è distratto. Dopo un po' di tempo che avete abbandonato la... Finché la barca va. Esatto. Volevo provare a condividerlo, sempre un'operazione complicata. Cosa? Su RGDR. E... A un certo punto appare, in vista visto dalla vostra poppa, una nave a poppa. Nave a poppa. Catta, tirami un... Lo scoprirà a fine episodio. È passato del tempo da quando ci abbiamo salpato e... Sì. Ah, quindi sì. Long rest. Sì, siete full. Bella perception. Ah, aspetta, quanto? Qualche giorno. Ah, qualche giorno. Recupero anche questi qua. Tre. Sì, siete full. Ok. Tutti gli incantesimi. Puoi tirarmi, allora. Ok. In questi giorni qualcuno è morto Fabio, sulla nave. Fabio Perception, allora. Sì, 6 più. Fa... E che cos'era? Non lo so, era un Perception. Ah, di okay, 6 più. Pensavo fosse un altro tiro ancora. No, no, questo ti dico. 3. 9. Ok. Non vedi niente. Do, non no. vedi molto bene. Fatemi tutti voi due un Perception. 8. C'è un po' di nebbia. No. 15. Okay. 14, scusa. 14. 14, sì, non noti nulla di particolarmente di particolare. Ti sembra che ci sia un vessillo, come tipo potrebbe essere una specie di teschio con una sorta di bandana bianca. Bandiera nera dei pirati. Potrebbe essere, però è in campo bianco. Oh, e... guarda meglio la bandiera. La vedo benissimo. Anzi, la bandiera. Gliela puoi descrivere. La vedo benissimo. Non la nostra. Quella dell'altra nave. Quale nave? Quella. Hanno una bandiera. Le indico dall'altro lato. Un teschio e una bandana su fondo bianco. Ah, una bandana su fondo bianco. No, aspetta, però è brutto su fondo bianco. Sì. Cioè, fondo rosso. Ah. E sì, ossa e bandana. Anzi, sto pensando, potrebbe essere. No, aspetta, non è bianco, è rosso. No, aspetta. È Superman. Sì, dai, facciamo bianco su rosso. Ma rosso, vermiglio. Fai un tiro di conoscenza. No, ti dovrei fare di intelligenza. Esatto. Fai un bel tiro di intelligenza. 16. Ah, questo è tipo di feccia di mare. Esattamente. Potrebbe essere molto bene, visto che è diventato il corsario di ghiaccio, mi pare. O il corsario bianco, cosa avevo detto? Che si faceva chiamare il corsario di ghiaccio. O il corsario d'inverno, non mi ricordo. Però sai che poi lui usava il rosso prima. Mm-hmm. Quindi potresti immaginare che si tratta di una nave del famigerato Krakenberg. Esatto. Vedete il mio viso arrabbuiarsi e la mano che corre ad afferrare, no, l'esa botta della spada. Signori, questo... devo andare un attimo sotto coperta. Scusate. La nave sembra seguirvi per un periodo. La cosa interessante è che per quanto si avvicini, non si avvicina però, cioè non sembra puntarvi in modo diretto, semplicemente vi segue per un lungo periodo. Ma lui nel mentre cosa lui che diceva? Ah, lui non lo so. Devo dire lui cosa dice. Di prepararvi al peggio, perché sono tuoi vecchi nemici, hanno una fama che li precede. Ma no, mi sembra che sia solo una nave. Fulmine. Ti prego, giusto. Cos'è che ha detto? Perché tu avevi detto cosa avevi detto? Hanno una fama che li precede. Ah, ok. Ok. Che tristezza. Va bene. Molti sull'equipaggio cominciano un po', nel momento in cui poi viene più visibile, ovviamente, e quindi insomma le insegne comunque del teschio eccetera sono un po' per tutte legate alla pirateria, ovviamente, quindi sono tutti un po' inquieti. Ma il capitano cosa fa? Il capitano sembra un po' teso, ma non particolarmente preoccupato. Fatemi un perception. 22. 7. Ok. Laz a un certo punto sente il bisogno di scaccolarsi forte il naso e si concentra. No, è che è un halfling, quindi... E però questo, questa sorta di inseguimento dura parecchio tempo in realtà, cioè. Però non è un vero e proprio inseguimento, perché come vi ho detto, cioè non è che punta, quasi una giornata a momenti. E a un certo punto vedete che viene fatto tutto molto in sordina, però il capitano praticamente dà degli ordini di far rilasciare delle scialuppe. Delle scialuppe. A che distanza siamo dalla città? Manca ancora qualche giorno. Ok. Però siamo. Sì, mi arriva. C'è la mappa. È là. Dopo ce l'ho anche qua, direi. Top. Sì, sì, ma va bene. No, questa è meglio. E siamo praticamente quasi all'imbocco ormai del mare degli inganni, quindi manca poco a Kafker, siamo in questa zona, insomma. E vengono rilasciate queste scialuppe cariche non si sa di cosa. Si vede qualcosa sulla scialuppa? Ci sono delle casse. La cassa. E vengono lasciate proprio in mare così da sole. E dopodiché praticamente la nave gira un'insenatura che qua non è ben chiaro, ma c'è. E dopodiché voi non vedete più la nave, sembra non aver seguito la vostra nave. Dai, indaga. Questo è il tuo ambiente. Avranno pagato un pizzo. Avrò potuto farle arrivare. Gangleri. Avevo tutti gli incantesimi. Eh? Avevo tutti gli incantesimi. Esattamente. Sì, provo. E adesso sono anche più forte. Qualche mozzo che come mai avete mollato quelle scialuppe? Fammi un intimidation. No, puoi fare. Tu ti fa. Quale scialuppe, scusami? Quelle che... Però avete un po' a disagio perché probabilmente molti hanno visto le scialuppe. Quelle che non avete buttato in mare. Diciamo che hai visto anche tu un po' la nave che ci seguiva, era meglio non rischiare. Abbiamo lasciato un po' indietro delle cose per essere più leggeri. Beh, sembra molto saggio. Fai un... Perché quella persona grassa è rimasta allora? Un insight, esatto. 17. Posso farlo anche io? Ho capito che era Salla, era Krakata che andava a parlare. Ci sei anche tu? Se è Krakata non è un contrario, sì, non problema. Anche perché sennò sto con l'altro. Ok, no, schifo, 12. 12. Anzi, 15. Tu hai fatto? 17. Per entrambi di voi è abbastanza evidente che stia mentendo. No, si sa quella nave che... Gli dei vedono sempre la verità, figliolo. Che porto batte. Non sono ciechi e stordi. Sordi. Hai detto che eravamo tutti ciechi e sordi. Sono anche muto. E bugiardi, quanto per. quella nave lì, che rotte batte di solito. Amico, sono... Penso che fosse una nave pirata, probabilmente. Meglio non saperlo. In realtà sì, per evitarlo. Beh, come potrai ben immaginare, come forse avrai sentito, queste acque pullulano di pirati, bisogna stare attenti. Sempre di diversi o battono tutte la stessa bandiera? Da quello che so, recentemente pare esserci una fazione particolarmente più forte, questa di questo capitano, particolarmente aggressivo. Lui è molto forte in tutto il mare degli inganni, qua comincia il suo territorio quasi, a breve. Capisco. E come pensiamo di arrivare sicuri a destinazione, se c'è questo flagello dei mari in questo No, non ti devi preoccupare, il capitano è molto abile in questo, lui questa tratta è il più ferrato a farla. Ti devi preoccupare di questo, amico. Bene, confideremo nell'abilità del capitano allora. Nessuno aveva ancora mai pensato di risolvere la situazione da queste parti. Ehi, amico, ascolta, io ascolta. Io sono un mozzo su questa nave, cioè non mi occupo di politica e strategie militari, cioè capisci? Avrei sentito notizie di... Io penso che alla fine, cioè, tutti facciamo il nostro lavoro e, cioè, se tu hai il vantaggio di avere, no, scherzo. Penso che alla fine tutti, cioè, comunque facciamo quello che possiamo, insomma, cioè, forse anche i pirati alla fine, cioè, se la devono sbarcare un po' in qualche modo. Poverino. Cioè, alla fine l'importante, cioè, se sai come trattarci, cioè, il capitano in questo è bravo, cioè, non ho paura. Speriamo che la guida del capitano, cioè, ormai è quasi la 20ª volta che faccio questa tratta, non mi è mai successo nulla, quindi, cioè, sono tranquillo, cioè, sei tranquillo anche tu, amico, cioè, vedrai che non ci saranno problemi. E invece hai mai sentito di qualche imbarcazione che non ha più fatto ritorno? Beh, sai, cioè, ovviamente intendiamoci, la tratta comunque non è semplice, a prescindere dai pirati, comunque c'è, cioè, capitata la tempesta primaverile che ti sbalza di brutto, amico, ce l'hai visto anche tu, quella che ci ha beccato prima, c'è stato un gran casino. Se becchi una roba così, effettivamente deve avere il capitano che sa che cosa fare, perché qua, niente, che un abile lupo di mare non sa che domare. Beh, non è mica così scontato, amico, cioè il capitano Taius è uno con i controcoglioni, cioè io mi fido di lui, amico, cioè fidati. Perché te lo direi? Perché dovrei? Mi è impressamente venuto odio per questa persona. Cioè, alla fine, ragazzi, cioè, non dovete stare, cioè non dovete temere, cioè, tutto a posto, tutto a posto, no? Dimmi invece il capitano che controlla quest'area, quante navi ha a disposizione? Ascolta, amico, mi fai domande che io, cioè, non so, cioè, sono pirata, e chi potrebbe saperlo? So, amico, cioè, boh, so, cioè, chi è, puoi chiedere al capitano, forse ha, no. Sta ondeggiando tra l'Ippi e lo Yak, questo personaggio. No, cioè, non lo so, cioè, forse, cioè, sicuramente c'è, cioè, qualcun altro da ciurma, forse, ecco, forse Bruce ne sa di più di queste cose, cioè, lui dice tante cose, però io non so se poi lui, cioè, veramente sa, oppure dice così. Va bene, dove sta questo Bruce? Bruce, è quello lì, dai, cioè, l'avete tutti, conosco tutti Bruce, dai, certo. D'accordo, cioè, Bruce, quello lì che sta... Come ho potuto dimenticare. È Batman. Sì, cioè, quello che sta a prua, Bruce, cioè, oh, dai, sai. Bene, grazie mille, Bruce, quello buon lì, lavoro. La barba, insomma, cioè, con il cappello, un po' così, insomma, Bruce è un gamba, però io so, cioè, se lui, tutte queste cose, se sarà vero oppure no, cioè, Bruce, però, insomma, lui. Vai in pace, ecco. Come si chiama lui, tra l'altro? Io mi chiamo Guard. Grazie Guard, buon lavoro. Ah, grazie, prego anche grazie. Ah, però scopo una cosa, io non vorrei poi aver guai il capitano, cioè, magari cose, cioè io lo so, cioè, io tutto quello che so, però, cioè non vorrei avere problemi con il capitano, cioè, non so se il capitano ha piacere, insomma, per cui, cioè, magari lui, va bene, cioè, anche se cose di Bruce, cioè, scalo fa così, cioè, capisci, anche io, cioè, c'è anche te, cioè. Che ansia, cioè, mandatelo via. Si è ribaltata la situazione. Guarda, ti stanno chiamando a poppa. Ah, sì, cioè, sto per lavorare, va. Buon lavoro. Sì. Grazie. Bene. Proviamo ad andare a sentire questo Bruce. Trovi Bruce. Che ora è del giorno? Vuoi chiederlo a Bruce? ormai è sera. Buonasera. Tu sei uno di quelli che hanno un po' così, insomma. E tu sei Bruce? uno di quelli che hanno un po' quelli che hanno, che insomma si dice che abbiate un po' fatto un po' di casino sull'isola, insomma, cioè... Diciamo che le cose particolari capitano a chi se le va a cercare. Diciamo che ci sono certe cose che in mare sarebbe meglio non fare. C'è chi dice che tu sei un abile marinaio, però a quanto pare certe cose forse te le fischi. Beh, diciamo che gli dèi arridono gli audaci. Sì. Però, e anche gli stolti. Però a volte forse è meglio stare nel proprio, insomma. Beh, chi sta sempre nel suo giardino non troverà mai niente di nuovo. Mi piace tutto il ragionamento. Peccato che il non mare, i giardini sono pochi. Cosa vuoi? Cosa posso fare per te? Hai visto la nave che ci inseguiva oggi? Penso che solo un cieco potrebbe non averla vista. Quindi non sei cieco. Beh, è un'ottima cosa. Cieco! La mia battuta. Tu sai di chi era? Sicuramente una nave pirata. Hai visto la bandiera che batteva? Sì. Tu la conosci? Ne ho sentito parlare. E cosa vuoi sapere? Quanto dobbiamo preoccuparci? Non vi dovete preoccupare. Per quale motivo? Ragazzi, ogni anno il capitano a questa nave fa questa tratta più volte. Se la fa è perché la può fare. Non sarebbe più semplice liberarsi di questa piaga una volta per tutte? Sarebbe molto più economico. Per chi? Per chi fa questa tratta. Amico, qui ci sono degli interessi un po' più grossi dietro, no? Non credi? Cioè, nel senso, cioè, allora non ci sarebbe la criminalità. Che discorso è? Cioè, la criminalità c'è finché si tollera. Questa è terra quasi di nessuno. Ma vabbè, no, amico. Adesso vabbè. Basta con l'infiltrazione. No, amico, seriamente, questo, cioè... Sì, cioè... Fidati, non è così. Beh, si vede che allora non stanno ancora chiedendo un prezzo troppo alto per il passaggio. Il prezzo è alto, ma se qualcuno lo paga è perché comunque avrà vantaggio a farlo. Poi io non ho conoscenza di questi meccanismi fino in fondo, però penso che il capitano e anche gli altri abbiano fatto i loro conti, insomma. E dimmi, cosa sai dirmi di quella ciurma di quelle navi? So che ci sono tante navi che bisogna starci attenti, che battono tutte quelle bandiere. Sì, ce ne sono tante. Quante? Da quello che ho sentito dire, ormai è una bella flotta. Stanno una trentina di navi. Tutto il mare. In questa zona? Ma in questa zona poca, perché non siamo ancora nel loro territorio vero e proprio. Infatti, cioè, pensava, cioè, probabilmente, però, insomma, si è apparsa qua. Del dubbio uno fa. E si sa dov'è la loro base? Da quello che si dice, molto molto nord, del coltello bianco. Non so dirti, perché d'inverno lì è la lastra di ghiaccio, quindi io penso che non sia proprio lì, però sicuramente a nord c'hanno un bel covo. Penso che comunque si vogliano più o meno espandere. Certamente qua d'estate, queste acque qua, qualcosa di più lo possono fare. Quindi secondo me d'estate, primavera, sono anche un pochino più aggressivi. Poi d'inverno magari alcuni rimangono su, forse, e fanno un po' all'interno, insomma. Poi sai, l'inverno è dura, Vediamoci chiaro, anche perché non ci sono tante navi che girano. Ma sai, città, c'è poco di qua di città. Negli accampamenti. Ma ti dico, secondo me neanche tanto. Cioè, se dovessi saccheggiare le colonie, veramente faresti poco. Svernare, nel senso di Per me c'è qualcos'altro dietro, ti dico. tutta quella gente, tu dici. Cioè, è ovvio che, sai, sì, qua di passaggio lo becchi, intendiamoci. Però poi nel momento in cui entri nel mare degli inganni, lì non è che c'è poi tante cose, ecco. Cioè, c'è Tana dell'Orso, sono pochissimi, cioè, poi sicuramente non è che vai a... Cioè, se c'è... Secondo me, insomma, boh, E con cioè, cosa si sostenta tutta questa storia? ti dico, secondo me c'è qualcosa dietro, non lo so, però secondo me c'è qualcosa dietro, cioè, c'è qualche giro dietro, ci avrà messo mano su qualche risorsa, non lo so, da Interessante. quel, però, dato di fatto che negli ultimi anni, insomma, abbiamo preso un controllo, cioè, anche altri pirati che c'erano sono andati via. Non si sono Da uniti a quanto lui, non tempo ormai? si sono uniti a lui. Perché probabilmente gli conviene essere tutti sotto la stessa bandiera. Bene, Bruce. Sei stato prezioso. Prego, Addio. tu cosa mi racconti invece? Come mai ti interessa tutta questa cosa? Beh, se devo andare a vivere in queste terre, voglio sapere il più possibile. Ma, da quello che so, tu sei un ex pirata anche tu, qualcosa del genere, quindi Certo, ma qualcosa di più ti interesserà, dai, dimmi qualcosa. per me è fondamentale conoscere il mio nemico. Se Perché pensi di diventerà... metterti contro di loro? Non credo ti convenga. Starei Loro che dalla mia. potrebbero mettersi contro di me. Ma, cioè, dipende cosa vuoi fare, se fai semplicemente a fare il colono, perché dovrebbero? Dimmelo tu. Cioè, se non crei problemi ai loro traffici, secondo me puoi stare tranquillo. Poi, ovvio, nel momento in cui ti trovi in mare, ti arriva una nave pirata addosso, non vorrei essere lì. Però, alla fine, se tu non crei problemi, cazzo ne so, cioè, stai pescando lì vicino, ti arriva la nave, dici dammi metà del pescato, tu dico dai, sei a posto. Nessuno non è bravo a pescare, non gli dà niente. Tu hai finito di scaccolarti adesso, sei arrivato lì. Vabbè, ragazzi, lo so, adesso lì, questo mi chiede delle cose difficili, lo so. Però io, cioè, io penso che ci sia qualcosa dietro. Secondo me, ti dico, è quasi, secondo me è fatto, cioè, le colonie, non dico che li sovvenzionano, però ci sta molto dietro, secondo me. Quanto vuoi Possiamo andare che lì? Capodanno della Madonna, dove? a Maggiugorje. Dove Maggiugorje? Oddio, Balcani. sì, più o meno. Ah. Quei posti lì. Una flotta del Non so se in genere Croazia non la riesce a o sostentare piuttosto che solo in con Bosnia. le donazioni di passaggio Ma o io delle colonie. dico che Aspetta. secondo me c'è qualcosa di un po' strano, quindi secondo me no. È una cosa organizzata, insomma, anche da chi gestisce le colonie. Vuoi fare un Bosnia. insight complessivo? Bosnia. Vai. Bosnia. Capodanno in Bosnia e Sempre Međugorje. 17. Sì. Allora, Volete venire secondo anche voi, lui è contai con Sandregas. sincero, però gli piace chiaramente, sembra che gli piace molto chiacchierare di queste cose. E che sia anche un po' tendente a credere un po' alle cospirazioni barra ingigantire le cose, insomma, cioè mette tutto un po' insieme. Per cui, cioè, è sincero quando ti dice queste cose, però. Non è detto che corrisponda alla verità. Ok. Esatto. Cioè, non è detto che abbia queste informazioni così dettagliate. Va bene. Cazzo, com'è che lo condivido? Non riesco a condividere sui GDR, tutte le volte mi scordo. Vabbè. Condividi non... Non qua, indietro. Lì la Aspetta, freccina, sì, quella. esatto. Bravo. Bravo. Arrivo. Ci siamo. Va bene. Quindi, Katta, soddisfatto? Rimborsato? Volevi altro? Direi che quello che volevo quello che non volevo sentirmi dire me l'ha detto e vedremo di affrontarne le conseguenze. Anche sui numeri potrebbe aver esagerato. Lo spero veramente. Però lui era sincero quando te l'ha detto. Mm-hmm. Va bene. E proseguite nel vostro viaggio. Io durante le giornate magari guardo se qualcuno ha bisogno di cure, mi offro per prestare aiuto se qualcuno ha bisogno. Sì, c'è qualche persona che ha sofferto un po' questi giorni. Gli aiuti? Sì. Che bravo. Con medicina. E vabbè, sì, lo devi tirare. E se c'è qualche morto lo resuscita, se sono morti entro da un'ora. Ma quando cosa fai? Resusciti in che senso adesso? Se uno è morto da meno di un'ora posso riportarlo in vita. Ah, proprio così, già resusciti di brutto. Non fai il non morto? No, no. Ah, urca, quindi siete già barati. Non l'ho preso. Il non morto, potevo farlo. Entro muore. Va bene, va bene. E soprattutto quanto tempo ci metti a lanciare? No, ma mi servono diamanti per 300 comunque monete d'oro. Che per ora lo dai. No, però no. Quelli a cui avevi promesso di riportarli in vita sono molto scontenti di questo. Vabbè, non è che vado in giro promettendolo. No, sto scherzando. Non potrebbero essere scontenti se sono morti, scusa. E no, no, però non posso ristorare le parti del corpo mancanti. Immagino che uno senza testa non lo possa portare in vita. O magari sì, solo il corpo, solo la testa. Anzi, no, niente, va perché lo può fare. E se porto in vita solo la testa. Non credo una vita lunga. Uccidetemi. Però. Ok, allora cambio incantesimo preparato perché non mi serve molto a rifare. Va bene, comunque la gente ti è grata per il tuo sostegno. E raggiungete finalmente Kafkern. Ehi. Kafkern è una colonia, non mi ricordo, mi avevo anche detto quant'era, 200 persone, un po' di più, mi ricordo. Ve l'avevo detto queste cose. Sì, comunque qualche centinaio mi sa. Esatto, e vediamo la mappa se ci può aiutare. Cosa è scritto? Guarda qua, scena 3. Eccoci. E quindi la vedono anche. Siamo qua. La gente in diretta? Sì, in teoria questo sì. Figo. Beh, ma già altre volte l'ho fatto. In ah, sì. Adesso in realtà ci vorrei caricare anche la mappa nuova, ma faremo con calma. E Kafkern è qua, è una specie di piccola baia con praticamente dietro queste scogliere che la proteggono un po'. E è più piccola, ovviamente, molto più piccola di Varkard, e lo vedete subito questo. E però comunque, insomma, mi sembra comunque abbastanza ben organizzata. E notate che comunque qua è già molto più freddo effettivamente, e c'è anche un discreto vento comunque, per quanto possa essere protetta, però comunque ventoso. E ditemi cosa volete fare. Praticamente vi viene detto che ci saranno praticamente 3 giorni in cui ci si fermerà qui e poi si ripartirà per poi andare a Tana dell'Orso. Ma girotto per la città. Allora, chi di voi ha qualcosa da fare qua? Mi chiedo. Una cosa in realtà. Quando sbarcate, si avvicina a voi il capitano Taius. E dice: ah, ragazzi, ehi. Beh, qua non è proprio una città. Però insomma, la locanda ce l'ha. Che ne dite se vi offro una birra? Capitano, quale atto di splendida generosità? Un sì è più che sufficiente, amico. Sì. Venite pure, vi porto io a bere. Vi porta in questa sorta di locanda che probabilmente è anche l'unica di questo villaggio. E forse ci sono un'altra. E tutti sembrano conoscere il capitano Taius, tutti sembrano molto contenti che sia arrivato, anche perché, come sapete, quando arriva il Baldrac, tendenzialmente ci scopa per la città. E capitano vi spirito guardia. Vedi? Cos'è? Lo spell che vi dicevo prima. Spirito guardiano. Ok. E va bene. Cagatemi un attimo però. No, sì, visto che comunque non siamo in tanti, almeno cagatevi. E ma dobbiamo fare anche le veci degli altri personaggi. O le feci. No, quelle sono quelle che ho fatto prima. Sì. Le feci. Ah, cosa sono stati in bagno? No. Grazie per lo spoiler. Non hai capito. Feci. Feci passato. Hai cagato o non hai cagato? No. Ok. E arriva in questa locanda, vi offre da bere il capitano, vi dice: ragazzi, vi hanno detto che voi siete dei tagliagole contro fiocchi. Queste parole così poco eleganti, capitano, non le si addicono. Diciamo in realtà mi si addicono perfettamente. Allora, diciamo dei picchiatori di tutto rispetto. Diciamo del... dei bruti, senza paura. Della feccia, della peggiore. Organizzazione di vigilanza privata si chiama. Questo mi piace, penso che sia un buon business. E ad ogni modo mi dicono che, insomma, se c'è da usare le maniere forti, non vi tirate indietro. Solo se queste sono giustificate da le contingenze. Io sono un povero vecchio. Certo. Di armato di tutto punto. E uno deve anche proteggersi in questo mondo. Come, scusa? Dico solo se sono giustificate dalle contingenze. Assolutamente. O c'è una buona entrata per noi. Si dice se il corso giusto appunto dell'onore e della giustizia deve essere ristabilito. E questo mi piace molto sentirlo dire, perché effettivamente al giorno d'oggi quante volte la giustizia può essere veramente amministrata per quello che è la necessità, giusto? Ecco, signori, io penso che voi vi sia capitato nella vostra carriera, c'è chi insomma di inverni li ha visti parecchi, e quel tipo la di sua birra, però quel tipo di persone che non so come dire, non mostrano rispetto per le altre persone, cioè pensano di fare quello che posso, che vogliono, come e quando possono, senza che ci siano conseguenze per loro. Io non sono un fautore delle maniere forti, sia ben chiaro, però vedete, signori, insomma, quando uno non paga i propri debiti, insomma, arriva poi un certo punto in cui le cose... Certo, è molto disonorevole. Esattamente, è proprio quello che dicevo, perché non è solo una questione di non ridare quello che devi ridare, cioè è proprio nel senso, perché quello che ti viene dato di fatto o comunque appartiene a qualcun altro, è come se tu glielo stessi rubando in un certo senso, anzi forse anche peggio, forse anche molto peggio, perché vedi, almeno nel rubare c'è una certa qual nobiltà e imprenditorialità, mentre invece nel non restituire c'è proprio la vigliaccheria di dire beh, non te lo do e non è tuo, invece è tuo, e quindi questo è molto scorretto, e vedo che ci siamo capiti. Bene, signori, ecco, vedete, in questa città non tutti i vostri commilitoni, coloni, sono persone oneste come voi. persone di animo nobile come voi. Purtroppo esistono anche quelli che in termini tecnici definiamo dei ratti schifosi. Vedete, signori, io volevo chiedervi se, vista la vostra, diciamo, il vostro talento per le arti picchiatorie e per la coercizione di ogni tipo, ma recupero crediti, potevate in qualche modo aiutarmi in questo piccolo problema con uno dei nostri di questi personaggi che si trovano in questa città. Fino a che livello? C'è un interesse poi nel continuare ad avere relazioni economiche con questa persona, o se dovesse succedere l'irreparabile non sarebbe un problema? Una persona, questa qui con voi, non penso che spartisca nulla con voi. No, con lei. Anche con lei che offre. Voi siete diretti in fondo a Terra dell'Orso, quindi non dovreste avere problemi eventualmente in quel senso, e in ogni caso. No, detto in parole povere. Noi andiamo a fare una sorta di recupero crediti. Se poi il creditore non dovesse più esserci, è un problema o no? Se il creditore non dovesse più esserci. Ma adesso io arrivare a una cosa così drastica mi sembra esagerato. Però ecco, io lo sarebbe vorrei... molto più facile da recuperare, però. Ma e allora adesso, ok. Va bene. Certamente, siccome ho capito che voi siete professionisti in questo ambito, mi affido assolutamente a voi su tutta questa linea. Diciamo che ovviamente, intendiamoci, dovesse lui averceli e dovesse voi riportarli, tutto il resto per me è poco rilevante in linea di massima. Non dovesse averli, ovviamente, è chiaro che da vivo ha più possibilità sicuramente di ripagare in futuro, però penso che un avvertimento di un certo tipo possa comunque aiutarlo in un domani a prendere decisioni più sagge, no? Alla fine tutti abbiamo bisogno a volte di qualcuno che ci mostri quello che possono essere le conseguenze, insomma, di un atteggiamento poco corretto nei confronti degli altri. Questa persona non è ancora stata sollecitata nel pagamento? Questa persona è stata sollecitata più volte, ma credo che sia ormai tempo che dei professionisti si occupino, i professionisti della vostra classe, del vostro livello, di come tutti vi parlano, siete ormai, insomma, delle leggende in questo senso. Si occupi appunto di questioni di questo tipo. Io per primo vi ho visto in atto e devo dire sono rimasto molto impressionato, molto ben impressionato. E di quale cifra stiamo parlando? Per giustificare. E di che tipo di. Per giustificare il pagamento. Oggetto o cose da recuperare? Parliamo solo di soldi o altro? Signori, sì, parliamo di soldi in questo specifico da recuperare. Per quanto riguarda la vostra giusta non c'è paga, un'economia che gira intorno ai soldi. La vostra giusta lo so, però come potrete intuire, questo è vero, ma fino a un certo punto, nel senso che poi per tutto quello che riguarda, diciamo, il sottobosco, per così dire, delle attività che sono legate comunque a ciò che c'è di esterno alle colonie, ovviamente la valuta torna in gioco. Intendiamoci, come potrete intuire, io sono avvezzo anche a valutare altri metodi di pagamento, quindi non mi scomporrei se il pagamento non fosse totalmente in denaro. Per quanto riguarda giustamente il vostro compenso, mi chiedevo, insomma, cosa potrebbe essere più interessante per voi, perché effettivamente deduco che del mero denaro potrebbe esservi utile fino a un certo punto. Sicuramente quello che posso offrirvi è una consulenza, più di una consulenza, gratuita, ovviamente, per quello che sapete essere, diciamo, una delle mie attività principali, insomma. Non ho la mia consulenza, ovviamente. Vediamo, ognuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe, però io non mi occupo di questa cosa specifica, insomma, no? Ecco. E Però insomma, per intendiamoci, a quel punto di vista hai già capito cosa piazza il vecchietto. Però ecco, diciamo quello sicuramente. Non sono quel tipo di prete. Quello sicuramente sì. E di che cifra stiamo parlando da dover recuperare? Dover recuperare, parliamo di una cifra ormai una cifra abbastanza grossa, insomma. Una cifra che si aggira intorno alle 50 monete d'oro. Possiamo dire che con gli interessi ormai siamo arrivati ai 65 monete d'oro. Signori, parliamo di una cifra, lo so, molto alta. Però cazzo, una volta sarebbe stato tipo da pezzetti, 65 monete d'oro. Beh, però per una persona sono... No, ma io una volta ero a migliaia. Campagna. Come mai sono stati prestati così tanti soldi a questa persona? Avevo una banca, avevo. Non avrà pagato dei servizi. Non è del tutto corretto dire... Cioè, ovviamente, come vi dicevo, esiste tutto un sottobosco di attività. Queste colonie, così anche a Kafkern, che non riguarda specificatamente il, diciamo, qualcosa che magari è la superficie di tutto. Nello specifico parliamo di attività legate comunque al gioco d'azzardo e così via. Ma questo non è un problema. Fatto sta che comunque voi capite che nel momento in cui si partecipa a determinate cose è come se si accettasse un contratto che a tutti gli effetti è valido e accettato da tutti i partecipanti. E quindi ha maggior ragione perché non, secondo me, perché vedete il problema è questo. Cioè se io vado da un fornaio e gli compro un pezzo di pane, giustamente io glielo devo pagare, però è così, ovviamente il fornaio sa che nel caso c'è il gendarme che lo protegge, ma a maggior ragione se non c'è il gendarme che lo protegge, secondo me quel tipo di contratto tra le due persone vale a maggior ragione ancora di più, perché entrambi partecipiamo ben sapendo che, diciamo, fidandoci anche dell'altro, è qualcosa che ha un livello superiore. Non so se siete d'accordo in questo. Ah, insomma, l'unica cosa che manca da sapere è l'identità di questa persona, direi. Assolutamente. No, volevo sapere invece, però, anche se aveste altre cose che potevano interessarvi. Insomma, io posso offrirvi ovviamente una parte. Informazioni vanno più che bene. Informazioni. Anche un mezzo di trasporto non serve male. Vabbè, tanto dobbiamo spostarci da qua. La città è piccola. Che tipo di mezzo di trasporto? Strada slitta, non ce ne sono. Una bella slitta? C'è già la neve per... Un po' di neve vabbè, al nord si trova sempre, ma sicuramente potrà esservi più utile. Una bella slitta di quelle importanti sicuramente potrei farvela avere, sì. Perché no? Quando ripartiremo? Tra tre giorni ripartiremo. E dove potremmo trovare questo personaggio? Questo personaggio si chiama Pity Tag. Nel senso di pietà. Pity Tag è il suo nome, insomma. Adesso sui nomi ognuno è libero di avere il proprio nome. Ci mancherebbe, io non metto. E penso che riuscirete con le vostre abilità a trovarlo. Certo, come potrete immaginare, il mio ruolo qua è qualcosa che in qualche modo è un peso per me, intendiamoci. Però, come potrete immaginare, io per questa comunità, il fatto che comunque sono uno dei pochi che si avventura qua, tra virgolette, vediamoci, voi immaginate, per me questo non è così rilevante, ma anche il mio prestigio in qualche modo, quindi come forse potrete immaginare è per me importante che la cosa non sia correlata direttamente a me. In questo senso vi chiedo un po' di discrezione. Ma discrezione è il nostro secondo nome. Sì, il primo questo... è nessuno. Molto bene. No, dov'è? Non c'è. Che? Stavo cercando quale. Se c'è il. Come si dice? Il destriero da evocare. Mm-hmm. ci può dire lui ci può dire qualcosa di più riguardo a questa persona, o dobbiamo indagare noi dove trovarla, che lavori fa? Beh, non faticherete a trovare Piti, penso, più di tanto. So che voi siete molto abili in questo, penso che solo cercando informazioni la taverna lo troverete, ecco. E riuscirete a trovarlo con facilità su questo. Trovare la sua grana, se ce l'ha, se non ce l'ha, se ha già sperperato tutto al gioco d'azzardo. Diciamo che ovviamente. Ma che proprietà ha questo? Questo che devo capire. Dove abita, cosa fa? Le chiediamo in giro. È un colono. Non è così rilevante. Il momento in cui lo troverete, non dovrebbe essere difficile per voi trovarlo. Posso dirvi questo sì, che è anche abbastanza facile trovarlo. Sarà facile trovarlo per voi, perché io non voglio assolutamente essere razzista, però è quello che in gergo si definisce uno sporco gnomo. E come voi saprete, alcuni gnomi sono persone. Non sono persone. Sono gnomi con cui puoi fare affari, ma pochi lo sono, purtroppo. Non è per essere razzista, però è un dato di fatto che molti gnomi sono delle sanguisughe di cui sarebbe meglio liberarsi. Detto questo, adesso io non voglio fare una questione, ovviamente, perché Pompiti sicuramente avrà le sue ragioni, io non dubito, indubbiamente. Tuttavia, come abbiamo disquisito in precedenza, in modo molto chiaro, parliamo di una persona abbastanza infame. E quindi, nello specifico, io mi rimetto a voi sui metodi da utilizzare, ma dovesse esserci necessità di usare la violenza, io non penso che sia poi così sbagliato, tutto sommato. Purtroppo, per quante botte si possa dare a qualcuno, l'oro non uscirà dalle ferite. Io mi rimetto a voi sulle metodologie, però diciamo che sicuramente almeno un avviso sarebbe importante, penso, per lui. C'è. Va bene, andiamo a cercare questo Pitti. Ok, Laz, tu intanto vuoi cercare informazioni su... No, approfitterei per chiedere a lui, dopo che abbiamo fatto questa cosa, visto che abbiamo in cambio informazioni, perché no? Puoi cercare anche informazioni qua su... Per adesso non vorrei sventolare troppo il pacco e il simbolo. Quindi eviterei di far pubblicità. Va bene. Ok. Ovviamente, se vedo un simbolo in giro, faccio 2 più 2. Certo. 5. Sì. Va bene. Quello se faccio percezione bassa. Cat. Quindi cosa fate? È sera? Sì. Allora direi che potremmo fare qualche domanda in taverna, visto che siamo qua ed è sera. Bene, cerchiamo Pitti. Vi fate tutti un bel investigation. Non c'è male. 7. Ho trovato un sacco di roba, io immagino. Cos'è investigation? Intelligenza. 4. Ok. Mentre Giulio e Laz brancolano nel buio, il buon Catta prova a mangiare informazioni. Sei tu. Cosa fa Giulio? Guarda, non c'è niente. Strano. Giulio su Instagram, ancora non li vedo pubblicare. Sì. Perché non mi segui? E perché non posto foto? Perché non sai come mi chiamo? Ti metterò a fare una partita adesso, dai. Devo Blizzard giocare 3 carte per completare una missione. Poi mi arrendo. Ok. Che logorroico che è stato questo datore di lavoro? Eh? Che? Lo logorroico che è stato. Ah, questo lo voglio parlare stasera, a quanto pare. Beh, non ti ha che interagire. No, ci dispiace interrompere. Sembrava molto innamorato della sua voce. Puoi birra? Beh, tu ce l'hai già. Grazie. As... No, posto. Inizio. Va bene. Katta riesce a scoprire che questo Piti praticamente frequenta un'altra taverna che a quanto pare c'è in questo posto, che è un pochino un po' più losca e più di questo. Sì, questa è una taverna normalissima in realtà. Chiaramente la taverna della città. Questo è un posto più una specie di bisca dove si fanno varie cose, tra cui gioco d'azzardo, e combattimenti tra cani e altre cose. Dove vive? Dove vive? Non lo scopre. Vabbè, quanti gnomi ci saranno in questa città? Sì, no, infatti è abbastanza teoria, cioè comunque conosciuto. Cioè, città. Non si sa con esattezza dove vive, ma probabilmente chi viene da Tarzola, perché è uno che, cioè, non è così semplicissimo da trovare, a quanto pare. Cioè, sa come devo farsi trovare in alcuni momenti. Lui si occupa un po' di compravendita, quasi di contrabbando, a quanto pare, normalmente. Quindi quando uno vuole cercare, ha bisogno di qualcosa che si fa fatica a trovare, cerca stopiti, quanto pare. Da quello che ti viene detto. Poi da un punto di vista così, lui sembra uno che insomma fa tanti piccoli lavoretti nelle case, ma la sua vera attività, a quanto pare, è questa qui, dice questo che non riesce a parlare. E quindi sappiamo che è un patito di gioco d'azzardo. Che? Ha un patito di gioco d'azzardo. Sì, tra le altre cose. E anche dentro un po' queste cose qua. Adesso cosa sta facendo? In che senso? Come attività? Di che cosa? Questa attività qua. Cioè lui si occupa un po'. Commercio? Sì, è un commercio però sotto traccia. Cioè sicuramente hai i suoi agganci con tutti i commercianti che passano nella città. Certe cose le ha solo lui. Se durante l'inverno hai bisogno di determinate cose che non si trovano, lui spesso ce le ha. Ok, quindi abbiamo l'impressione che effettivamente lui li può avere. Quando riparte la nave? 3 giorni. Ah, ok, abbiamo un po' di... Perché? Per sapere quanto tempo c'è di più da me. Devi pure. Posso andare a vedere un'altra. È il capitano, a lei la decisione. Questa autorità che mi viene qua. Posso andare a vedere in quest'altra taverna? Non mi frega nulla del certo di un ognuno. Giulio. Molto bene. Lo osserviamo per un pochino per vedere chi viene anche detto da fare. Anzi, che proponiamo di comprare una l'occhio per vedere quanto è capace di spendere. Fermo. Ti viene detto che eventualmente per recarti a questa sorta di bisca, ti viene detto dov'è. Devi devi bussare a questa questo portone che sembra chiuso proprio, mm-hmm. senza niente dentro, e dire: ah, il legno di Frassino è proprio il migliore. Ok. Aveva ragione mia madre, il legno di Frassino è proprio il migliore. Questa è per forza a me, c'è dentro. Ok. Ah, aveva ragione mia madre. Il legno di Frassino è proprio il migliore. Ma quindi andate là? Oh, sì. O io sto dicendo a lui così? No, non hai capito, devi dirlo a me, devi dirlo. Ok. Possiamo anche andare là. La sera, tanto non. No, niente. Portiamoci. Non abbiamo altro da fare, non sappiamo dove vive esattamente, non possiamo andargli in casa. Massimo lo pedineremo. Mm-hmm. Andiamo, dai. Vabbè, la tua è mia madre. Aveva ragione mia madre, i Frassi erano proprio il migliore. Ed è questo. Inizialmente non ricevete risposta. Un po' però sentite muoversi un piccolo spioncino. Mm-hmm. Che fa? Quanti siete? 3. Ok. Andate sul retro. Andiamo sul retro. Sul retro ho trovato una porta semiaperta. Ma lei che... Busso. La porta è semiaperta. Per annunciare... La chiudo e busso. La chiudo e busso. È per annunciare il mio arrivo. Bussi. E dentro. Yar. Okay. Gli altri? Lo seguo, dai. Sì. Ok, appena entrate praticamente c'è uno dietro che chiude subito la porta e fa: cazzo Buzzi l'altra volta, scusa, da dentro va. Praticamente questo posto c'è una scalinata che va giù, mm-hmm. sono delle tende che coprono tutto. Arrivate giù, questa bisca, c'è un po' di gente, effettivamente vedete dei vari, una specie di parte centrale dove c'è come se ci fosse una piccola arena, probabilmente per combattimenti di animali vari. Mm-hmm. Poi ci sono vari tavoli attorno, un bancone per bere, altri tavoli dove si gioca, eccetera. Quanta gente c'è in numeri? Vediamo qualcuno di particolare. Ci saranno non tante persone, saranno una ventina di persone. Vediamo qualcuno in particolare. E vedete qualcuno di particolare? Fatemi il perception. 19. 17. 20. Sull'angolo del cone vedete quello che indubbiamente è uno gnomo. Vedete in questo posto anche alcuni membri dell'equipaggio, sicuramente. Cosa fa lo gnomo? Lo gnomo sta bevendo al bancone. Molto bene. Sto al bancone. Ecco. Faccio cenno a loro di seguirmi e mi siedo al bancone in modo abbastanza vicino allo gnomo in modo che possa sentirmi parlare. E parlando con loro dico: accidenti, che posto di merda. Uno raccoglie i più preziosi cimeli dagli abissi e non trova nessuno interessato a comprarglieli. Vedi lo gnomo che certo punto, cioè sembra far finta di nulla, poi a un certo punto insomma chiede un po' da bere, dice beh, forse dipende anche dal tipo di cibeli in fondo, no? Non volevo farmi i fatti tuoi, però è chiaro che se hai trovato una scarpa di qualcuno, è difficile che te la compri. Immagina la cosa più rara e preziosa che tu possa immaginare. In assoluto? Sì. Nel fondo del mare. Non saprei. È un modo di dire, ovviamente. Il fondo del mare, un modo di dire, o la cosa più preziosa? È per dire che l'ho trovata in un posto molto molto difficile da raggiungere. Una cosa molto preziosa potrebbe essere una reliquia, ad esempio. Sì, ma ovviamente c'è certe e cose. E sei venuto a Kafker a venderla? Ero già diretto qua e l'ho trovata lungo il cammino. Ho capito. Il punto è, che senso ha avere con sé una cosa del genere se non la si può monetizzare? Beh, giustamente ci vuole un compratore. Già, è una maledizione questa, ne sono sicuro. Mi rendo conto, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Potrebbe esserci anche qua, potrei conoscere qualcuno interessato. Forse. Ah, davvero? Sì. Di cosa ti occupi tu? Ma io mi occupo un po' di commercio in generale. Adesso magari non è il mio ambito specifico, però potrei conoscere qualcuno interessato, forse potrei aiutarti in fondo. Ma interessante. Città piccola questa, conosco un po' tutto. Beh, molto gentile da parte tua. Come ti chiami, piccolo amico? Mi chiamo Piti. Piti? Mi dice qualcosa questo nome. Piti. Boh. Avrò conosciuto un po' molto. Non è un nome, non è un nome particolarmente originale. Già, hai ragione. Ma al contrario, la persona sembra molto interessante. Ti ringrazio, ma l'importante penso sia, diciamo, avere argomenti interessanti più che essere interessanti. È vero, anche quello. E Pitti, nello specifico, qual è il tuo argomento? Il mio argomento è l'aver ricevuto in dono uno dei due occhi di Agnaruk. Fai un deception. In bilico direi. Sì. Dodici. Allora non ho mai sentito parlare degli occhi di Agnaruk, potresti aiutarmi in questo senso? Sono dei cimeli talmente rari che in effetti si è persa la loro conoscenza nelle nebbie del tempo. Si dice che non fossero millenni, mai esistiti. Esatto. Che millenni e millenni fa, al tempo della creazione del mondo, il dio dei venti venne sfidato a singolare tenzone dal dio del fuoco, e questo, lanciandogli addosso i suoi lapilli, mi provocò il distaccamento. Domanda una cazzata. Sì. Il distaccamento. Domanda. Delle, no, delle, perché sennò il mio PG avrebbe dovuto tirare a terra come delle comete infuocate. No, il tuo PG tira se vuole. Ok. Tira su intelligenza, conoscenza. E si frantumarono in innumerevoli frammenti. Non ha molta conoscenza. No, 14. 14. Sembra esattamente così. Non conosci questa cosa? E ti sembra strano che possa conoscerla ti sembra strano che possa conoscere la carta che non si ricordava neanche chi fosse Agnaruk, però chissà, magari è vera. Mettono in mente. E dicono che questi frammenti portino un'incredibile fortuna nel loro padrone e permettano di navigare sempre in acque calme e con il vento in poppa. Quello che tu dici è una bellissima favola. Ma lato pratico di cosa stiamo parlando? Un occhio vero e proprio, cioè viscido, cioè sarà secco immagino ormai. Mi avvicino e parlo sottovoce per dare l'idea che sia una cosa particolarmente che non deve essere sentita da orecchie indiscrete. E gli dico, è una gemma rossa che risplende di luce propria, purissima, e di dimensioni ragguardevoli. Ah sì, del tipo che non si può vedere. Beh, non la porto certo in un posto del genere. Ah, beh, ci mancherebbe. Si può vedere lontano da occhi indiscreti. Ma guarda, amico, dici tante, usi tante belle parole, però se uno lo vede è difficile. Non ho mai sentito parlare di questa cosa, onestamente. Non mi occupo tanto di queste cose così, però se è qualcosa di interessante si può valutare. Va bene, allora possiamo venire nella tua casuccia e discuterne in privato. No, ma perché non discuterne qua? Tu faresti una trattativa pubblica? Pubblica, ci si può appartare e trattare Ah, va senza alcun problema. bene, ma partiamoci. Certo, ma tu hai detto che non ce l'hai qua però, quindi di cosa La c'è posso bisogno? recuperare? Bene, quando torna e quando la vedrò ne potremo parlare, certo, ci mancherebbe. Ti trovo sempre qui? Questa sera penso che sarò qui, ho un po' scarica nonostante ci sia un po' gente equipaggio, forse domani ci sarà un po' più gente, però un po' di cose ci saranno, più tardi vedrai che sarà più gente, un po' più di gente. Va bene. Mentre vado, ti lascio in compagnia dei miei amici. Avete passato Tu un ce l'hai con bel te poi di fatto momento. sta pietra Sì, in realtà. uscirò, aspetterò E 2 minuti e rientrerò. rientrerò. Ok. Beh, mentre Tibro. il primo venditore se n'è andato, potresti parlarmi della città. Siamo appena arrivati con la nave del capitano Taius. Ah, sì, Taius. Ecco perché c'era un po' di prostitute in giro, sì. No, sì, l'avevo notato, immaginavo. E sì, voi siete coloni diretti a nord, Sì, immagino, non siete siamo qua dell'equipaggio. solo di passaggio. Certo, Sì, sono il rappresentante certo. dell'ordine. E sì. La città non c'è molto da dire, quello che avete visto. Questo Beh, forse è il diciamo posto che più interessante. non cerchiamo le classiche cose da dire. Infatti, è il primo posto dove ci hai visti è questo. Puoi immaginare cosa ci può interessare. Sì, un po' di gioco, un po' di cose, ci sta, sì. Cosa vi può interessare? Siete qua solo per vendere, il vostro amico è qua per vendere, voi siete qua per comprare? Comprare, vendere, arricchirsi. Del tipo? Qualunque cosa che può essere interessante per chi frequenta questi Qui luoghi. cosa trafficate? Io sono un prete. Traffichiamo. Siamo anche Un interessati a prete? comprare. Non sembra un posto adatto a un prete. Il posto tipico, Siamo io anche sono molti interessati a preti da queste comprare. parti. Si vede, c'è una mancanza di No, fede. intendo in questo ambiente là, è difficile trovare un prete qua, però stamani si può trovare. Interessato a comprare oggetti, informazioni che ci possono agevolare nel nostro viaggio. Del tipo, che cosa potrebbe Qualunque esservi cosa utile? che possa agevolarci nel nostro viaggio e nella Cosa state cercando? città del Ditemi. Forse nord. posso aiutarvi. Aiuta. Cosa stiamo Non cercando? riesco ad avere informazioni generiche. Inventa qualcosa. No, lui, cioè, nel senso, sembra che tu voglia comprare qualcosa, lui vuole sapere cosa vuoi comprare. Non ho un'idea chiara su cosa può essermi utile, è la prima volta che faccio viaggi di questo genere. Ah, perché voi non vi fermate qua. No. Andate più su. Bel Stiamo nell'orso. posto. Sì, ce l'hanno detto. Allora, forse delle coperte, non lo so cosa potrebbe servirvi. Vabbè, bel pinto tonto. Non so ragazzi, di Non cosa avete lo so. bisogno? Volete qualcosa che vi rende il viaggio un po' più così agevole, per così dire? Dai, torna. Qua Toc non ci muoviamo più. No, aspetta, intanto qualcosa che possa rendervi il viaggio più agevole, non lo so, insomma. Effettivamente effettivamente passare tutti quei giorni in nave, a volte la mente vuole vagare un po'. Dopo sì, ma... qualcosa contro la tua religione, è già le erbe. No, io sono un esperto. Sì, allora forse stiamo parlando di questo, insomma, cosa pensavi? No, non so il mio amico, cosa il mio compagno di viaggio, cosa avessi riferito. E tu invece? Io invece cosa? Di cosa desideri? Se cercavi qualcosa di specifico, posso aiutarti in questo senso, credo. Ma sì, cosa tratti? Un po' di tutto, insomma. Però se parliamo di, diciamo, erbe, piuttosto che... cose insomma simili, posso ecco aiutarti. Ad esempio 300 kg di diamanti. Cioè diamanti per 300 anni. Diamanti ne ho pochi, perché vuoi, difficile trovare un diamante da queste parti. Cosa ti serve un diamante? Niente, la mia religione. Tua religione è la ricchezza, immagino. Esattamente. Diamante è difficile. No, vabbè, posso... per sapere, tanto... Più che altro ha un grosso valore, è difficile... Non avrei soldi per un braccio. No, più che altro... Vai, rientra. Informazioni toc. Su... Informazioni okay, su... Ok, no, niente. Aspetta, no, cazzo, adesso... Devi no, dire su... la parola d'ordine. Ah, ok. Su Tana dell'Orso. Abbiamo sentito che è un posto veramente... in ospitale. Sì, decisamente. Poche anime. Assolutamente. Nessuna donna. Sì, beh, vari orsi. Lo sappiamo. Vari orsi. Dicono esce fuori del buon pescato da lì, però. Quello sì. Se non perdi le mani di andare fuori a pescarlo d'inverno. No, quello non dovrebbe succedere. Ma c'è qualcosa di interessante nei dintorni? Qualche luogo mistico? Se c'è una colonia lì, forse qualcosa di interessante c'è. Bella risposta. No, io non mi occupo tanto di queste cose, ma io penso che ci sia un motivo per cui ci sia una colonia lì, e forse più avanti si saprà questa cosa. Su, per quanto riguarda il mistico, come forse avrete sentito, sono tante le leggende di quelle zone lì. Quali poi possono essere vere, non lo so. Quello, ormai la magia si sa, sta un po' scomparendo da questo mondo, però pare che al nord sia piuttosto forte. Poi io non mi occupo troppo di queste cose, in realtà. Ci sono altri che si occupano di queste città. Eh sì? Sì. Anche se, insomma... Quello dove dobbiamo consegnare il pacco. Anche infatti sto chiedendo. Anche se diciamo che è meglio rivolgersi a loro, se proprio si vuole rivolgere a loro, credo. Se si ha bisogno di rivolgersi a loro. Ma mi puoi fare dei nomi? Dei nomi. Diciamo che io non vi conosco, quindi potrebbe venirmi contro come cosa. In che modo? Nel modo in cui eventualmente il fatto di rivelare certe informazioni potrebbe non essere considerato una buona cosa da parte di questi soggetti. Beh, in ogni caso... Ti sta dicendo che potrebbe anche dirtelo, però... tra virgolette, sì. Perché dovrebbe farlo? Cioè, potrebbe, è qualcosa che potrebbe danneggiarlo. Sì, ora no, come ora. Ma perché dovresti essere danneggiato? Noi non mica vogliamo uccidere o chissà cosa. No, però diciamo che è gente che preferisce stare non sulle essere disturbata. diciamo che chi si rivolge a loro sa che ci sono loro. Quello sì. Cioè, non è che li trova paura, oh, che bello, oh, che strano, ci sono loro, oh, che da paura, non avrei mai pensato. Hanno i loro affari. Insomma, io poi di loro affari ne so il giusto, però so che ci sono, ecco. Questa città a me sfugge poco, ovviamente, è piccola. Allora, ormai sono qua. Sfilo torna il pacchettino e gli faccio vedere il simbolo. Parliamo di queste persone qua. Ah, vedo però che qualcosa sui collezionisti sapete. Sì. Però se mi state chiedendo, io presumo che non come siate... ti ho detto, è il nostro primo viaggio in queste zone. Tuttavia, presumo che non siate dei loro. No. E allora mi chiedo, perché qualcuno che non è dei collezionisti porta un qualcosa con un simbolo dei collezionisti? Come hai detto tu, le informazioni possono essere date, ma non sappiamo a chi. Neanche noi lo conosciamo dopo tutto. È vero. Ottima osservazione. Tanto toc toc poi. Mia madre diceva sempre: meglio migliore è quello di Frassi. Più o meno. Più o meno. Torno, vai, vai, vai, vai nella posta della porta di dietro, va. Già di ritorno. Niente. E dice: sì, questo è vero. Sicuramente. Ah, ecco, ho trovato il vostro amico. Bene, bando alle ciance, andiamo ai fatti. Dove ci appartiamo? Ehi, non sono una delle non sono una delle vostre amiche della nave. E mettiamoci pure qua sul lato. Ti porto da in un tavolino dove non c'è nessuno vicino. I tuoi amici mi hanno detto cose interessanti in questo periodo. Ah sì? Sì? Di che cosa avete parlato? Ho parlato, ma non so se ne possiamo parlare in realtà. Sì, sì. Ah, sì. Sapevano certo... che avevo questa cosa. Sì, sì, buono, lui lo sa. Io ho detto che insomma siete qua non solo per fare tappa qua, insomma, ma dovete consegnare materiale di una certa rilevanza. Sai, è plausibile. Sembri molto informato. Beh, sono uno che si fa i fatti propri. È uno che dimentica le cose facilmente. Capisco. Come il suo dio, i nemici del suo dio. Sembrava molto preparato sulla storia che racconta. I fratelli del suo dio. Ha una memoria corta, molto corta, e una memoria lunga, molto lunga. Interessante. E... va bene, quindi di cosa stiamo parlando invece per quanto ti riguarda? Lo vuoi vedere? Stiamo cadendo nel... parliamo dell'occhio di... non ricordo... Agnaro. Agnaro, ok. Sì, certo, vediamo questo occhio fantomatico. Zip. scherzone! Occhietto, occhiolino. Mi fai vedere la pietra? Un sacchettino e gli faccio sbirciare dentro. Una roba così. Comunque, ah, sì? Sì. Non ti ricordi? No, pensavo stessi in una mano. Ci sta perché era amigdala e così, però è così. Sti cazzo. Gli fai vedere? Sì. Lo fai vedere? Glielo faccio. Gliel'appoggi. Ah, lui, vedi che ha una faccia molto sorpresa. Mm-hmm. Cioè, probabilmente pensava lo stessi perculando. Invece... e rimane interessato. Posso toccarla? Prego, ma fai attenzione. E non sbatto le palpebre mentre luce la in mano. Oh, non c'è più. Esatto. La guarda. Sì, non è. Ecco. Non è esattamente qualcosa di cui mi occupo io, però ai vostri amici forse potrebbe interessare, forse, non sono un esperto. Quanto volete però per questa, per curiosità? Un'ottima domanda, in effetti non ci ho mai pensato. Sto cercando di liberarmene per fare qualche pezzo d'oro in più. Tu per dire, che prezzo la faresti? Per questa ti posso dare... Cosa volete essere pagati? Volete d'oro? Dipende, in che merce di scambio hai. Allora, posso rimediarvi del buon equipaggiamento. Mm-hmm. Posso, come dicevo, ai tuoi amici anche rimediarvi certi tipi di sostanze che insomma potrebbero alleviarvi il vostro viaggio. Interessante. E... altre cose, perché vanno magari legate più a ambito cibo eccetera, se qualcosa che vi può interessare. E non saprei, dimmi tu, cioè, cosa cercavate qualcosa di specifico, potrei trovarlo. Ma direi semplicemente oggetti di valore più comodi da nascondere, da trasportare, e più anche universalmente utile, riconosciuti, diciamo, come valore e come utilità. Esatto. Ma allora vediamo, fammici pensare. Potrei farvi qualche, ad esempio, pozione, potrebbe essere molto utile. Qualche pozione, beh, sicuramente. Sto pensando, qualche pozione vera e propria, o magari qualche pergamena. Forse si può fare sulle pozioni. Tre per una pozione a testa, potremmo raggiungere questo accordo. Fammi un insight. Persuasion mi sembra molto poco. Fatemi un insight. 19. 22. Poco. Allora, lui, datemi le pozioni. Mi sembra che lui non sappia bene che cosa sia questa roba. 12. Ma ha intuito che vale tanto. Sicuramente vale più di 3 pozioni. Di più, lui probabilmente non ha queste pozioni. Ma ha forse intuito che può rigirare e guadagnarci e farvi arrivare le pozioni con qualcun altro. Direi che possiamo alzarci direttamente dicendo: vedo che qua non si può parlare di cose serie. Io lo faccio e vado. Esco. Esci proprio? Sì. Se non mi ferma, sì. Non so, dipende cosa fanno gli altri. Quanta pazienza, dai, torna qui. Esco. È la normale arte del mercanteggiare. No, esco, vado. Va bene. È un po' per gli lascio. Ok. Sembra si sia offeso dalla tua offerta. Beh, aspetto fuori, comunque non vado via. Aspetti fuori? Sì, non vado via. Lui fa: beh, diciamo che non è lui che ha la pietra, quindi in fondo mi interessa più sapere cosa ne pensi tu. Beh, non ha tutti i torti. Possiamo che fare 3 pozioni senza di lui, d'accordo. Beh, ma il valore non cambierebbe. Beh, sarebbe maggiore per voi. La mia offerta non potrei abbassarla a 2, ma ora la tengo a 3 per il vostro beneficio. E in ogni caso, invece, in cash, quanto sei disposto a pagare? Monete d'oro, che vi serviranno il giusto là, però posso capire che possono essere utili. Non so quanto vale la pozione, tra parentesi. 50 monete, mi sa che le facevi pagare. Una roba del genere. Addirittura, così tanto. Mi sa che costavano tanto, sì. Infatti ne avevamo due. Penso che ci possiamo accordare su 150 monete d'oro. Una cifra importante. Tu li hai tutti cash? Su questo aspetto, o al momento no, ma penso di poterveli far arrivare prima che ripartiamo. Questa è sempre nella prima sera. Sì. Tempo è passato da quando abbiamo parlato col capitano all'inizio? Avete parlato quando siete arrivati all'inizio, a tardo pomeriggio. Quindi lo trovo ancora in taverna, volendo. Il di capitano? Là. Puoi cercarlo, sì. Ma mi ridirigo un attimo di là allora. Ok, e fai varie stradine. Fammi un sopravvivenza. 6. Ti perdi su vari, cioè ti metti un po' a arrivare, non ti ricordi nella strada. Sì, sì, ma vai avanti intanto con e l'ora. A un certo punto, vai. Mentre sei con la stradina, senti un gran prurito. E dove? Tipo qua. Ah. Guardo. Quando apri, vedi come se ci fosse qualcosa che un po' riluce. Guardo nella cos'è nella tasca? Cos'è il pacco? Era tipo un coso di documenti, no? Mm-hmm. Ti ricordi? Che con il sì. Il simbolo, il sigillo. Sì, è come se fosse un po' illuminandosi. Mi guardo intorno. Edifici. Perception. 11. E non riesci a vedere nulla di particolare, vedi delle case un po' così. Se mi allontano continuando per una via vedo che si spegne. Sì. Allora torno nella zona. Va bene. Ma ti metti lì a... c'è gente? Eh? C'è gente? No. Apro il pacco. Piano. Cercando di no, rompere la busta. Vuoi provare a aprirlo? Sì. Proprio? Sicuro? No, nel senso, puoi effettivamente. Sono curioso, sì. Cioè, tu non l'hai visto, però hai capito che effettivamente lì c'è qualcosa. Effettivamente. E facciamo così, sì. Mi hai fatto 11 comunque di perception lì. E non vedi nulla di. Però senti. Beh, capisco un che brusio, è una zona... un brusio da una certa parte. Giustamente. Da dentro una casa? Sì, o da una via? Ti sembrerebbe di sì. Cioè, intuisci un po' dov'è. Mi avvicino. Però volevo aprirlo. Vabbè. No, poi se vuoi puoi aprirlo, se vuoi. Non è un problema. Era perché effettivamente mi hai fatto 11 che ero un sì, è basso. No, comunque c'è qualcosa. Essendo silenziosa c'è anche qualcos'altro. Cioè, senti un brusio, ma non riconosci subito le parole. Però puoi avvicinarti. Mi avvicino. Stealth, direi. Sì. 16. Ok. Ti avvicini a dove pensi che siano le voci. Effettivamente senti un po' qualche voce. Senti tipo delle frasi un po' tipo... adesso la situazione non è più... sempre più complessa, sempre di più. Ci sono due che parlano, l'altro fa sì, adesso bisogna stare un po' in campana con questa espansione, così i traffici sono sempre più grossi, bisogna stare attenti. Li sento solo o li vedo? Li senti solo. E come ti dico, sono in strada, in una via o dentro? No, sono dentro la casa. C'è uno spiraglio, una finestra, qualcosa? Allora, vedi una finestra, sì, c'è una finestra più illuminata. Più in là. E sì, vagamente. È il tuo più grande nemico. Il cane. Il cane. Allora, no, in realtà no, sono chiuse, sono sbarrate le finestre. Ci sono delle finestre tipo con gli scuri. Sì. E se vado lì riesco a vedere da una fessura? Posso provare? Puoi provare, allora, dalla fessura. Va bene, dai. Immagino fammi che non ci sia una qualità, cioè, ci saranno dei buchi. 12. Allora, tiri, vedi che dalla finestra effettivamente dentro è poco illuminato, però non... tipo candela. Sì, probabilmente, cioè, vedi un po' di luce, non riesci a vedere altro. E loro continuano a parlare o stanno parlando a voce un po' bassa? Tu senti perché è un buon udito, ma senti qualche però qualche aspetta, c'è poca luce, però c'è una luce. Io anche se ho fatto 12 ho gli occhiali della Dark Vision. Quindi? 60 piedi, dovrei riuscire a vedere un po' di più. Cosa ti dà come bonus? Vantaggio? Per 60 piedi ho Dark Vision, dice questo. Non so come vuoi usarla. No, non è quello, è che vedi al buio in realtà. Ho sì, questo, non sono al buio, quindi non funziona. No, non c'è. Beh, vabbè. Cioè tu vedi semplicemente la finestra è chiusa, capito? Quindi sì, dallo spiraglio tu vedi che è un po' illuminata e dentro ah, c'è una luce. Ok, vedo proprio un poco di sì, dentro okay, c'è una luce fioca, però sì, no, non vedo okay. Cosa c'è dentro. Ok. Vabbè, se non c'è nessuno per strada mi fermo un attimo lì e sto ancora a sentire. Vuoi controllare il tuo pacco, eccetera? Beh, adesso provo a aprirlo lì davanti, non mi sembra ideale. Comunque è un po' illuminata a sentire. È illuminata? Oh sì. E... fammi un altro perception. Questo è più alto. 23. Ora in questa posizione qua ti sembra di vedere un piccolo puntino luminoso in un altro punto della stanza? No, del fuori. Per strada? Non sì. Ho capito. Fuori allora, dove? Praticamente... io sono davanti alla finestra chiusa. No? Sì, allora, cioè, praticamente qua c'è, ci sono queste case, la cui entrata va un po' giù, ci sono tipo delle scalette ah. E giù c'è l'entrata. Ah, ok. E poi ci sono questi muretti così. A te sembra di vedere, tipo, diciamo, sul lato di questi muretti una piccola luce, visto così. Cioè, un attimo, mentre ci stai spiando, ci stai guardando attorno, non c'è un momento. Una finestra, in un muretto? No, sì, esatto, da muretto. Mi avvicino, dai, va bene. Vado a vedere. E... cos'è, tipo, a due case di distanza? Una casa no, di... no, sei, è lì. Ah, proprio è lì. È lì ah. Vicino, lì attaccato. Vedi il simbolino, quel simbolino. Quel simbolo lì. Ok, mi allontano un attimo. Dopo poco ecco. Scompare. Ok, e anche il pacco si smette di illuminarsi? Sì. Ok, e allora provo tipo a toccare il mattoncino che sarà illuminato per vedere se è tipo un pulsante o qualcosa. Lo tocchi? E no, non succede niente. Ok, allora mi allontano un attimo dalla zona, tipo vado qualche via più in là. Trovo una via non illuminata, senza persone, e apro il pacchetto. Voglio vedere cosa c'è dentro, sono curioso. Ma invece tipo dalla porta invece no. Cioè, nel senso, lì eri vicino a una porta comunque. No, non volevo entrare, volevo prima ah, vedere okay. Il pacco cosa contiene, pacco perché mi ha detto di non aprirlo, okay, andare a aprirlo da loro non mi sembra. Va bene, ci sta. Quindi apri il sigillo. Non si può aprire, tipo, è un pacchettino, non si può aprire da sopra, senza rompere il sigillo. Ci puoi provare. Cosa devo fare? Thieves Tools. Ce li ho, sì sì. O il falsario tools, come si chiama. Vai. Thieves Tools, sì sì. Vai, prova. Con cosa? Proficiency, proficiency più destrezza, penso. Si prova a fare. Sì. Sì, direi quello, perché non ce n'è un'altra che... Oddio. Se lo usi per spaccarlo, fai proficiency più forte. Se no, usi no, per, no, per aprirlo senza rovinarlo. Aprirsi da solo, fai carisma. Comunque lo dovrei aprire, diciamo. Sì, direi solo quello. Userei solo proficiency. E destrezza. Ah, anche destrezza metto? No, credo che sì. Funziona così, no? Cosa? Ah no, non funziona. Ci no, solo destrezza, allora. Basta. No, e poi la caratteristica della prova che usi. Che stai facendo. Ok. Direi destrezza. Quindi abbastanza alto. No. 8. 8, no, 8, 11. 11. E lo rovino un po', lo tagli, cioè lo ha, cioè riesce a aprire, però è tagliato, si vede. Ok, cosa c'è? Sembra esserci dei documenti. Li riesco a leggere alla mia lingua o... Vuoi tirarli fuori? Oh, sì, tanto ormai. E documenti, apri i documenti e sì, cioè vedi, ci sono scritte delle cose, ma sembrano sì, boh, dei, come dei bollettini nautici su sulle maree, cose così. Cioè la navigazione d'inverno, si pensa che sia così, notizie tipo sulla Saradovia, sulla Libeca, eh? 4-5 fogli sono. Un plico di fogli, ti sembrano leggi un po' tutte informazioni, un po' così, un po' di notizie. Li riesco a copiare? Li riesco a copiare? E dipende, hai... Sì, no, le cose lì nei tool li ho, per i documenti, eccetera. Ce li hai? Nel senso, quanto ci metto? Se sono... Ti devi prendere un po' qua oretta, sì. Allora metto tutto dentro, vai avanti con loro, io andrei nella locanda l'altra e mi prendo una stanza. Mi metto lì con calma a fare il lavoro. Ok, voi altri. Bene, quindi... Ah, sei tu che stai mercanteggiando. Oh, ok, il... aveva detto quanto ce lo poteva pagare. 150 monete d'oro che avrebbe voluto farcela arrivare. E prima che non partissimo. E va bene, allora troviamoci in un, stabiliamo un luogo di incontro domani. E ci potremmo fare così. Io potrei darvi stasera. Potremmo fare così. Io potrei darvi 50 monete d'oro. Voi mi date la pietra e io vi lascio ovviamente un impegno a ridarvi le altre 100 per fine. Al momento devo solo recuperarli, insomma. È un po' complicato, dico così. Diciamo che alla prima... Sapete che il mio lavoro si occupa un po' di questo, ovviamente. Sì, sì, ma capirei appunto che devi fare un'offerta proporzionale ai rischi che offri al tuo cliente, quindi... Se all'inizio ti presenti con almeno 70 monete d'oro, è chiaro che siamo molto più propensi a fidarci rispetto che 20, rispetto che 10. Conversare con qualcuno che sai che truffa, però... 70 monete d'oro... Sono tantine, anche 50 era una bella offerta. Ma questo pezzo li vale tutti. Fammi un persuasion. No, 7. Però alla fine penso comunque che vi do un terzo della parte. Insomma, sia una bella garanzia. Qual è la bella garanzia? 50 punti d'oro. Speravo un pochino ci venisse un pochino più incontro. piacerebbe al Chiavè, però diciamo che è un bel esborso mio, cioè una bella offerta che sto facendo. Un compromesso, porti 50 monete ed equipaggiamento per il valore di 15, come può essere due belle spade o un'armatura, neanche uno scudo. Che altro equipaggiamento hai? Allora, sì, possiamo fare una cosa del genere, ovviamente però lo scalerei poi dal costo. Sì, ma l'importante è che tu arrivi. Che cosa vi serve, ragazzi? Un paio di belle spade per 15 volte d'oro? Quanto costa la spada? 10. Eh? Penso di... se no, dei bei vestiti pesanti o... Beh, un paio di spade potrei farvele avere, effettivamente. Un 15 volte d'oro, quindi sarebbe un 65, beh, due spade però di fatto di buona qualità costano anche 20, quindi è come se fosse, se fossero i 70 che mi chiedevi, e quindi ve ne dovrei di fatto 80, giusto? Giusto. Sì, beh, si potrebbe fare in questo senso, e... si potrebbe fare, 15. Sì, potremmo vederci domani. E vi do intanto questo, voi mi date la pietra, io vi poi vi farò vedere, no, il resto. Cambio lo faremo domani e non qui. Sì, no, non è necessario farlo qui, anche se questo comunque non è un buon posto eventualmente per contrattare, ecco, però sì, certo, sì, potremmo fare così, 50 monete d'oro, due spade, poi le 80 ve le faccio avere prima che ripartiate, certo, perché no. Molto bene, dove ci troveremo domani? Domani Beh, non vi preoccupate, ci penso io a trovare voi. No, anzi, vieni nella nostra locanda dove alloggiamo. Ti offriamo noi. Questo, ragazzi, no, non mi sembra una buona idea. Non ti preoccupare. Ti trovo io. Tu tieni la pietra con te e ci penso io a trovare voi. Va bene. Tanto sono in giro, vedrai che vi trovo, non vi preoccupate. Oh, io penso sarò ancora a scrivere. Non avete fatto un'ora di discussione. Andiamo a cercare il permalosetto. Andiamo. Okay. Beh, ovviamente non ho tenuto nascosto alla locanda che ho preso una stanza, quindi immagino che se vanno a chiedere glielo dicano. Sì. Se vanno. Trovate l'As che sta... sta scrivendo un tavolo. Sì, li rendo partecipi della cosa e gli faccio vedere le carte. Volevo fare la copia pensando che... Credo che avessi dovuto aprirle. La curiosità è sempre... Che cos'è questa roba, Eric? È il contenuto del pacco che dovevamo consegnare. Che pacco? Sì. Lo sai che avevamo il pacco? Siccome... sembra di così tanto valore, ho voluto controllare e non capendoci nulla ho preferito fare una copia, non sapendo il valore delle informazioni. Beh, bisognerà fare un bel lavoro da falsari per rimettere a posto questa busta. No, non c'è problema, possiamo sempre dire di aver avuto un viaggio movimentato, come è stato. Posso rimetterla a posto io la busta? Ottima idea. Bene, abbiamo risolto. Dopotutto c'è solo un taglio, quindi. E adesso a chi la dovremmo ridare? Fatemi sì, tutti. Vi ho reso. Guardate le carte anche voi? Sì, le faccio vedere. Mm-hmm. Fatemi tutti e tre un tiro. Di cosa? Tu fallo. Tiro. 11. Fatti solo con 11, cazzo. 11. Tutti e tre 11. Ok. Posto. Sì, quando ho detto vi rendo partecipi della cosa, nel senso vi racconto che ho visto sta casa, il simbolo, eccetera. Mm-hmm. Quindi la mia idea è, dopo aver fatto questa copia, andare a consegnare effettivamente il pacco di notte. Quando c'è poca gente in giro... Hai bisogno di una scorta? Sì, direi di andare tutti insieme. Andiamo. Quindi cosa fate? Finisco domattina di fare questa copia, sì, che lascio lì, però. Aspettiamo domattina questa cosa. No, io lo farei di notte perché non, come ha detto il tipo, non è gente che ha piacere di far vedere che esiste. Quindi direi che È meglio così. Saremo più ben accetti se ci presentiamo da soli di notte rispetto a di giorno. Ti ricordi che tu sei stato detto che dovevi portarlo tu questo pacco? Beh, tu ce l'ha consegnato davanti a tutti quando me l'ha dato, eh? Sì, però era te con te il coso. Vabbè, però ci sta, li porto, non vado da solo. E quindi loro cosa non fate? Lo sanno, immagino. Cioè, cosa sanno fate? Che deve arrivare un pacco, ma non seguiamo. Quindi cosa fate? Gli rimettete nella busta, cosa succede? Sì, tu cos'hai per riparare? Cos'è? Bending. E riesci a chiudere il taglio del... È un taglio, sì. Ok. E l'idea è riandare nella via. Mentre arrivo, se vuoi ti rifaccio un perception per sapere se ci sono ancora sti qui che parlano dentro. Arrivi lì? Sì. Ok. Ci sono ancora delle persone o sono andati via? È notte, ok, cioè sì. Tipo là è tutto buio e sì, c'è sì. Sta cosa qua. E chi è che ha il pacco? Io. Ok. E vedi la porta che è lì davanti. Non sento nulla. Fai perception. Io sto in distante. Realtà posso. Ah, ok. Se siete con me potete farlo anche voi. No, io sto un po' più distante. 14 dalla casa. Ok. Non ti sembra di sentire niente in questo momento. Catta sta lentamente scivolando nel mondo adesso. E busso piano alla porta. Allora, voi siete un po' distanti, giusto? Io sì. Io sono 3 piedi dietro di lui. Ok. Vedete, di fatto, Laz, 3 metri, 10 piedi, che praticamente sta bussando a un muro. Beh, lo sanno, gli ho detto che sarà il simbolo lì. Cioè, tu stai bussando alla porta, tu. Ah, che io vedono che busso un muro. Ah, loro, okay. Cioè, tu lo sai, però loro vedono che tu stai bussando tipo a un muro. Ah, ok. Che cazzo fai? Lasciami fare. No, aspettate, qua. È un muro. Lui si è accorto che è un muro. C'è una porta. Lui sta bussando alla porta. Tu sei lì di fianco a lui e sta bussando a un muro. Giulio è più lontano e vedi Las che bussa a un muro e catta che fa. Che cazzo fai? Un po'. Che succede? E non lo tieni risposto. Nel mentre non si è più illuminato la cosa lì. È ancora illuminato. Ma no. No, è il simbolo. Non ci sono altre lucine per strada come prima, guardando di simbolo, eccetera. No, non sembrerebbe. E alla finestra di prima? Finestra di prima non ti sembra che ci sia niente. Niente, direi che per oggi l'occasione è andata. Tornerai in locanda e vediamo le prossime sere. Ah, torna indietro. E quando sei vicino ho fatto, ma scusa, stavi bussando a un muro? Non l'hai visto tu? No, stavi davvero bussando a un muro. Oh, se avete così tante domande la prossima volta vado da solo. Mentre ti stai abbandonando. C'era un muro. Senti la porta che si apre. Ah. Vabbè, torno indietro. Vedete l'asca, torna indietro. E niente, sempre un muro. Per voi c'è un muro. Entro. Scusa, quando a te ha detto che c'è un muro, quando tu gli hai detto che c'è un muro, lui cosa ha risposto? Mi ha detto lasciami fare. Io lo lascio fare. Entri? Sì. Ok. Dopo che entri la porta si chiude dietro di te. Noi vediamo lui che scompare. Facile così farmi andare da solo. È comoda, eh? Ma potevi dirci, guardate, c'è una porta. Se non l'avete vista neanche quando sarà aperta. Immagino che detect non, magic. Non vi avrebbe fatto entrare. Laz, vi sembra che si sia... No, non mi sembra che sia entrato in un muro, ma tipo che si sia infilato da qualche parte, tipo lì, tra questi muretti. Cioè come se fosse, tipo nascosto. Provo a seguirlo. Andare. Sbatti contro il muro. Cioè, avete tipo, cioè lui di fatto è andato dietro, cioè, a un certo punto è andato dietro, si è incuneato lì, piccolino, e si è tipo come se fosse tipo nascosto da voi. Per cui potrebbe andare lì e cercarlo, sì, sicuramente. Vado a cercarlo. Vado a sparire. Mentre cercate Laz, e Laz, tu sei dentro. Un corridoio, cosa c'è? È una stanza, illuminata adesso da delle candele. Ci sono due tizi. Uno è molto alto, mentre uno sta seduto in disparte. Buonasera. Ti dice: non ti aspettavamo con la scorta. Siete già stati informati del mio arrivo, quindi sapevate chi ero, non solo dell'arrivo di un pacco. Su chi sei non abbiamo ancora sicurezza, ma sul pacco vediamolo. Glielo. Lo guarda, fa. Vedo che non hai rotto il sigillo. Sono di parola. Quindi vedo che sia, anzi, no, vedo che il sigillo è intatto. Quindi o sei stato molto. Sei stato di parola, sei stato molto onesto e disciplinato, oppure sei molto bravo nel falsificare. Vuol comunque dire essere bravi nel proprio lavoro. Trovato qualcosa di interessante? Non riguardo a questo, è stato un viaggio molto movimentato, però. Fai bel deception. Diciotto. Che tipo di interessi hai riscontrato in questo viaggio? Molti strani eventi di ambito religioso. Ah sì? Che non c'entrano effettivamente con questa cosa, penso. Forse non, no. Non ho mai avuto problemi con nessuno riguardo questo pacco. Che cosa pensi che c'entri con questa cosa? No, non so, però come dicevo non ho mai avuto nessuno, a parte che nessuno ha visto il pacco, non ho mai visto nessuno interessato a quello che portavamo nelle due navi che ho frequentato, quindi non penso siano problemi inerenti a questo. E che idea ti sei fatto invece? Beh, l'unica idea che mi sono fatto me la sono fatta qua, quando ho sentito parlare di voi da Piti. Piti, lingua lunga. Se sì. Un corpo così piccolo. Sembra che anche tu soffra dello stesso difetto. Beh, dopo tutto sto parlando di voi, con è voi, vero. Quindi... E che cosa sai di noi? So solo il nome del vostro ordine. A quanto penso si riferisca a questo. Il ordine nome. Forse è un po'... Non è proprio gruppo. Corretto. Ma ad ogni modo, quale sarebbe il nostro nome? Collezionisti. Ed è... qualcosa che cosa ti fa... Ma diciamo che non è una cosa che mi interessa quello che fate. Ah no? No, ero qua a portare un pacco. Ah sì? Mi è stato affidato questo pacco da portare solo in cambio di un oggetto, dopo tutto. Sì, non per interessi. È vero. Ma pensi... se ti dicessi che a non tutti diamo un pacco da consegnare? Allora le cose cambierebbero. Come mai vi interesso? Diciamo che la nostra organizzazione si occupa di un certo tipo di affari che può richiedere le abilità di determinati professionisti che siano in vari campi. Beh, si è sempre alla ricerca di un lavoro fin quanto porta qualcosa nelle tasche di tutti. Questo è una cosa buona, ma mi chiedo se tu sia davvero interessato a una cosa del genere, sia soprattutto abbastanza competente. Il livello di competenza dipende dal lavoro da fare, ancora non me l'avete detto. Il livello di interesse, vi ho detto, finché c'è da arricchirsi, si è sempre interessato al lavoro. Che tipo di abilità, qual è la tua inclinazione, insomma? Non vi conosco, non posso dirvi quello di cui sono bravo, quello in cui sono bravo. C'ho, diciamo, se ti trovassi in una stanza come questa, che cosa faresti normalmente? Se fossi entrato e non avessi trovato nessuno a parlarti, che cosa avresti fatto? Avrei cercato qualcosa di valore, l'avrei preso e me ne sarei andato. Questo è interessante. E l'avresti condiviso con i tuoi amici là fuori? No. Perché no? Perché è mio. Faccia di cazzo. È qualcosa che è già capitato in passato? Sì. Ah sì? In effetti non abbiamo lasciato perdere la roba delle vesti. Noi sappiamo che mancano delle vesti in realtà. E quando me l'avete detto addosso, che cosa ti potrebbe portare a condividere invece ciò che hai trovato? Un aumentare del valore di quello che ho. Quindi se tu trovassi qualcosa che sai che può avere un valore per qualcuno, lo daresti a questo qualcuno per ottenere valore in cambio. Daresti? Dipende. Cercare informazioni riguardo... Se ti venisse pagato... Cercare informazioni riguardo a che livello di interesse e possibile alternativa, sì. E per quanto riguarda invece le informazioni, come te la cavi? Se dovessi... Trovarle o fornirle? Trovarle. Trovarle è una delle abilità principali per riuscire a sapere dove sono. Ma come ti vedi tra 5 anni? Facciamo un bel colloquio. È una delle abilità principali da possedere per riuscire a trovare cose di valore. Come ben sa, le cose di valore non sono esposte al pubblico. Se uno dei tuoi amici, se ritenessi che uno dei tuoi amici stesse dormendo, lo sveglieresti e avesse qualche informazione che gli interessa, che ti può interessare, che cosa faresti? Perché stiamo parlando dei miei amici? Erano per dare un esempio. Forse qualcosa forse... che ti interessa, che i tuoi amici sai che possono avere, ma sono resti a concederti. Voglio sapere fino a che punto. Sicuramente il primo interesse sarebbe il mio. Quindi cercherei di ottenerlo comunque. Ti spingeresti anche, diciamo, a procurare eventualmente situazioni che possono creare danno ai tuoi amici per ottenere queste informazioni? Dipende dal livello di danno, siamo comunque una compagnia in questo momento. Certo, un danno che, diciamo, in qualche modo non danneggi la tua posizione del bene. Sì, perché no? Ok. E se ti fosse dato, diciamo, un compito che però riguarda a te, saresti in grado di mantenere il segreto con altre persone? Il segreto sì, il compito deve avere comunque un ritorno per me. Certo. Vedi, non so bene se possiamo fidarci di te, però forse hai qualche numero. Forse hai qualche numero per poter entrare comunque tra i collaboratori della nostra organizzazione. Non ti darò tante informazioni su di noi, ma forse come avrai intuito... Questo era il tipo di ricompensa che avrei voluto per questo lavoro. Informazioni su di voi. Beh, allora qualche informazione di base te la posso dare, tanto non credo che saresti in grado ora come ora di procurarci troppi danni. E noi ci occupiamo di varie cose, ma soprattutto, come avrai intuito, ci occupiamo di cose che concernono la magia. E non te la faccio più lunga di quello che è, ma diciamo che al momento ci sono alcuni interessi che stiamo curando nella zona, nell'area in cui presto tu e i tuoi amici andrete. Ho sentito parlare della magia del nord, infatti. Potrebbero... Si sta diventando più potente. Sì, sembra che sia così. Ora, senza che tu scenda nello specifico, avremo per te qualche compito che potrebbe essere ben retribuito. Intanto vorrei sapere per quale motivo, se possibile, vuoi andare a nord. Una persona con le tue capacità la vedo poco incline ad andare in quelle zone. Beh, non siete le uniche persone con cui sono in affari. Ok. Come per voi deve rimanere un segreto che siete voi i miei datori di lavoro e i vostri compiti, anche altri potrebbero essere nella stessa situazione. Quindi non vedo perché dovrei dirvelo. In questo caso potreste dire che non sono abbastanza serio da tenere i segreti. Interessante, va bene. Forse non possiamo... ce la fai a cavarmelo. No, lui ha... Ok, sì, questo... Cattacede? Ha un po' più senso. Va bene, facciamo così. Però sono curioso di una cosa. È qualcosa di lungo periodo o di corto periodo per te? Il lavoro? Quello per cui volevi andare a nord. Questo posso dirvelo, nel senso che non lo so effettivamente, dipende cosa troverò a nord. Ok, basta. Vedi, il posto dove stai andando non è un gran posto, quindi potenzialmente diciamo che uno dei vantaggi di lavorare per noi, dovessi riuscire nelle tue missioni, potrebbe essere quello che ti facciamo uscire da quel posto, quindi dovessi trovare appunto quello che riesci a ottenere, cosa che non è così scontata di questi tempi. In più diciamo che valuteremo i tuoi risultati in modo adeguato da un punto di vista economico. Interessante. E economico, mi aspetto economia del luogo. In questo momento sappiamo che l'economia gira anche intorno ad altro rispetto che al solo oro. Quello che io pensavo è che una volta completata la tua missione tu fossi magari più interessato a svolgere altre missioni e quindi tornassi in un certo senso un altro tipo di remunerazione, ma certo, possiamo accordarci. Nel senso che ti vuole dire, dopo, una volta che dimostri di essere capace, poi se ne parla, puoi entrare all'interno. Certo. E vedo che comunque ha degli occhiali lui. Vedo che comunque da un punto di vista strettamente arcano sei ben fornito in questo momento. Forse potresti alleggerirti anche di alcune cose, magari. No, perché dovrei? Non so. Difficile che uno si faccia tanto di tante vesti tutte insieme. Tu ce l'hai con te, immagino, scommetto. Perché siete interessati a queste vesti? Come ti ho detto, è il nostro lavoro in parte. Ma può essere un vantaggio per te, noi compriamo là dove c'è da comprare, vendiamo là dove c'è chi vuole comprare. Beh, potrei, visto... Ah, vai. Se vuoi concludere qua, finiamo la prossima volta. Sì, la possiamo più o meno chiudere qua. Però sì, salutiamo intanto Enrico Cattabriga. Ci vediamo alla prossima, più sveglio. Ciao. Non ho garantito. Sabato ci sei? Dovrei, sì. Essici. Pomeriggio? Sì, poi sarebbe carino se la sera ci fosse per il calcetto. Adesso questo è una cosa alla volta. Ciao Catta, buonanotte. Perché sabato forse o probabilmente torneremo a giocare a Urban Heroes. Las, vieni qua però. Ciao Catta. È stato fuori dallo schermo. Ah, è vero. Ciao. Vabbè, non ti vedo proprio a mezzanotte tonda. Vai. Queste cose sono state prese semplicemente perché mi attiravano nell'aspetto. Non le conosco, quindi non saprei dare un valore o comprenderne. Capisco quale può essere un po' il tuo punto debole. Per questo tenevo a portarmele dietro. Beh, ti faccio sapere che le vesti che hai in questo momento hanno un certo qual valore. Valore comparabile a? Valore comparabile a? Dammi un manuale. Dammi un manuale. Ah, quindi non solo i guanti, anche le vesti erano strane. Cioè, è una domanda al master questa. Sembra che ti abbia detto così. Ah. Loro quindi Giulio potrebbe essermi interessato. Loro di cosa si occupano, hai capito più o meno? Beh, penso siano maghi o stregoni, insomma. Quindi tu dove, porteranno dove... oggetti magici. Esatto, sembra che loro si occupino di oggetti magici. Sì, poi che siano tutti maghi e stregoni, questo è... Sì, beh, nel senso... Però sembra un'organizzazione che si occupa di queste cose. Allora, bisognerebbe vedere che cazzo ti ho dato. Ce n'era una un po' meno bella e una molto bella. Sì, no, avevi so, detto. Questo poi okay, non lo è so una com'è. Definizione che non è particolare. Allora, parliamo di comunque, cioè non sono oggetti facili da trovare. Dove li hai trovati per curiosità? Dove li hai trovati in che senso? Dove li hai trovati? Posso vederli? Posso esaminarli? Sì, perché no? Li fai vedere? Sì. Cosa gli fai vedere? Le due tuniche? Le due tuniche e i guanti. Dei guanti. Allora, vabbè. Ti fa... Allora, vabbè, questa tunica qui, no, è una tunica molto bella, ma non mi interessa. Quella bella. Quella bella. Questi guanti, d'altra parte... Ah, nessuna delle due tuniche? No, l'altra tunica okay. Mi piace. Io però sarebbe bello se io li trovassi. E allora aspetta qua, mi sa che l'ho due. E diciamo che comunque è un valore superiore, per intenderci, alle 1000 monete d'oro. Qui parliamo quella bella in entrambi i casi di oggetti. Poi, i due magici, dice. Ok, Buy and sell this. Carino, 1000 monete. Potrei comprarsi altri oggetti utili per me. Non mi ricordo se qua c'è proprio il costo del singolo oggetto. Sì, c'è in ogni oggetto. Figo. Allora sì, lo dico. Mi ricordo perché ci avevo guardato. Per intenderci. No, non c'è tutti, perché alcuni se sono più fighi non c'è. Credo comunque non sono semplici da valutare, però entrambi sono oggetti di valore. Beh, come ho detto, mi è molto difficile separarmi dalle cose che penso siano di valore, soprattutto se non le forse conosco il pieno valore. Forse vorresti sapere però che cosa fanno. Esatto, era quello il senso. Ok, dammi un po' di tempo. Devo metterci un po' di tempo per esaminarli. Parliamo di? Perché come ho detto siamo in una tappa intermedia, dobbiamo partire a breve. Sì, no, domani te lo so dire, se vuoi tornare qua. Va bene, però devo lasciarli? Sì, dovresti lasciarmeli perché io posso esaminarli. Mm. Ti... è un po' difficile fidarmi pienamente. Giustamente. E... facciamo così. Ti mette tipo un uno scriglietto davanti. E anzi, sì, sì, non ci sta. E anzi, ti dà un sacchettino. Ti sembra piccolo e leggero. Piccolo e leggero? Forse ti conviene aprirlo, però. Apro. Apri e dentro ci sono tipo 1000 monete d'oro. Cioè, non sembrerebbe, però dentro ci sono, cioè, vedi, continui a guardare, ce ne sono. Ok, penso... facciamo che questa possa essere una cauzione. Ci può stare come trattativa. E... domani ti darò maggiori informazioni, allora. Torna qui da solo e parleremo con calma. Perfetto. E... il mio consiglio è dire ai tuoi amici che alla fine non hai trovato nulla qua. Va bene. Semplicemente pensavi di aver trovato un punto e l'hai cercato, ma non hai trovato nulla. Per quanto riguarda quello che forse hai visto nella busta, capirai forse da te che non era il vero contenuto. Carta nautica, no, proprio. Beh, e dico, non ho guardato la busta. Deception. 13 più 8, 21. Allora, forse sei davvero un ladro onesto. Molto rari. Di solito durano anche poco, però. Meglio, forse, però. Per un datore di lavoro. Esco. Torna pure domani qui e... Porta pure questa. Ti dà la spillina. Ok, una spillina... sembra normale, però se la, se la giri un po' esce fuori il simbolo. Ma è da... se la schiacci, dice schiacciala, se la schiacci esce fuori il simbolino loro. E... serve una sorta di biglietto da visita. Più o meno. Ok. Ti serve, ti serve per trovarci. Ok. Immagino farà lo stesso effetto della, del simbolo sulla busta. Quando sono in vicinanza di un rifugio si illuminerà. Può servire anche quello. Ok. Sì. Quando esci, allora, voi siete lì che state cercando l'As. E a un certo punto ve lo vedete sbucare da dietro, praticamente, a un certo punto. Ve lo vedete sbucare così. Così dal nulla. Dove sei stato? Mi sembrava di aver visto una luce dietro quel muretto. Detect magic. Sul muretto. Ma se a 30 piedi da me tutti gli oggetti magici so dove sono, cosa fanno, cosa fanno, no, dove sono gli oggetti magici, ok, e creature magiche, le cose magiche tipo anche incantesimi se sono permanenti, sì, ok. E allora c'è l'oggetti di Laz, no, l'oggetto li ho lasciati da loro, gli occhiali, okay. E un altro oggetto che io avevo già visto. Catta, non so cosa abbia. Sì, anche lui avevo qualcosa, ma avevo già visto anche Catta. E poi c'è una sorta di incantesimo su in questa zona. No, sì, dove? Qui, dove, in questo punto dove sei tu. Ah, ok. Di illusione. Ok, incantesimo di illusione. Quindi so esattamente dov'è. Sì, è qui. C'è qualcosa, nasconde qualcosa. Ok. faccio tipo uno sgrunt dopo le sue parole e per me possiamo andare. E va bene, chiudiamo qua. Direi che possiamo chiudere qua il 12° episodio di Coloni, che si chiamava I Collezionisti. E vi ricordiamo che ci potete sempre seguire su Facebook, sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons e anche su quella di RipGDR. E non ho presentato i miei ospiti oggi all'inizio, però sono stati con noi Luca Lazzarini, Giulio Bosi e Enrico Cattabriga. Pochi ospiti oggi. Pochi ospiti, tutti malati. Che ci ha lasciato poco fa per andare a dormire, non preoccupatevi. E ci potete seguire sempre sul blog rigdr.wordpress.com, che a breve cercherò di aggiornare con gli altri articoli sempre di Coloni. Vi diamo appuntamento alla prossima sessione, che dovrebbe essere sabato e dovrebbe essere di Urban Heroes, quindi Unstructured Heroes, che tornerà, e speriamo. E vi ringraziamo per averci seguito e quindi niente, un saluto a tutti. E Lasu, vuoi fare una battuta finale? No, oggi non fate poca. È vero, strano, hai quasi giocato di ruolo oggi, strano. Mi hai interloquito troppo. Ti ho interloquito troppo, male. Va bene, grazie a tutti. A presto. Se riesco a chiuderlo, fine. Madre di merda. Fermiamo la trasmissione e la registrazione. No, me l'aspettavo questa così lunga. Cosa? Pensavo fosse una missione secondaria easy. Invece saluto anche gli amici del podcast.